attenzione, no, vedrete. Sono contento. Lui sarà più contento di te. Beh, certo che sì. chiesto cosa ha detto lui, ha pagato. Cosa ti stavo dicendo? Ma il primo è... Allora, Gabriele chiama. Gabriele? Capo. Anda bene. E anche io avevo detto di chiamarlo Gabriele a Marco. Marco Gabriele. Qui siamo decisi, abbiamo chiamato Marco perché avevamo detto che se nasceva maschio, lo chiamavamo Marco all'inizio. Poi mia moglie mi ha detto perché Gabriele non è brutto. È bello anche quello, però se abbiamo deciso... deciso di chiamarlo Marco perché avevamo deciso prima di chiamarlo Marco, quindi ce l'ha chiamato lui. Ma Marco non è brutto, non è brutto Marco, come ti volevo dire, neanche Manuela, certo due nomi bellissimi, ma più che bello. Ma ci niente su via chiamavo, la Iconia, Gesù. Ma ci niente su là là. A me, sì, adesso fate l'altro in alto a quello. È un Nightgown, il suo destino, eh. Sì, però, hai... Tu puoi dire che ti blocca l'ascensore, Adi? Ma cosa fai tu? Se sei un micro, beh sì, adesso vengo io e ti alzo in alto, così impari. Io sono un micro, e mio padre è un artista. Parla bene che non ti ho capito cosa hai detto. Dimmelo in faccia, dimmelo cosa mi devi dire. Me lo metto, parla adesso. Io sono mito per mio padre è artista. E così alzo in alto, a te e a babbo tuo. Anzi no, a babbo tuo adesso me lo vengo, me lo prendo e me lo porto qua in campagna. Capito? Così mi fa compagnia. Perché ti dico? Cos'è questo? Ti devo fare un fisico, di ecco là. Che dopo che i video di Rosario Isa, ti immagini? Se devi vedere cosa ha combinato ieri in quella sala da ricevimento, dove eravamo a quel compleanno. Lui ha brigato da uno che gli ha dato un pogarito di corda, non ha fatto tutti colori, l'ha grattato, un uomo grande, gli ha tirato il golfo, filato la brada, ne ha fatto di tutti colori, però ce l'ha fatto a lui. Ci ha rilanciato roba di 2 euro, roba del genere. magari uno mi pare 90 euro, l'altro sono migliori come è stato d'uso, però questo è l'originale americano, quello col coso celeste. Quello col coso celeste, là non è Tanner più 3, più 2. Tanner più 3 plus si chiama questo qua, è grigio, il coso, cioè ha le spite in coso, cioè diciamo l'interruttore non è, no, è uguale agli altri, solo cambia il colore. Ah, le spite, basta. No, perché c'è più 2 che è molto buono, lo stesso è migliore anche come fatto, diciamo, come struttura. Stiamo parlando di 4, 2 è buonissimo con il microfono, è a livello del più 3. Cara Russia, può darsi che era abbinato male a quell'apparecchio che l'ho usato e quindi uscirò male per quello. E infatti a volte la salita dipende anche dal tipo di apparecchio. Però il più 2 è buono, più 2 la fanno. Avete parlato in 2 comunque, Gianni e Natalino, non si è compreso nulla. Perché mi ha falsettato Gianni, già se lo può permettere, sono piccolino io. Ho detto che sto male per provarsi che perché l'ha abbinato male, quindi uscivo male io, non era mio, nella parete non si trovo. Ho usato in caso di non so. Ma adesso sto facendo male, e forse magari l'ha abbinato male a quel tipo da fare il capisco. Oh Luca, sì, passa domani e ti prendi il microfono, lo lascio nell'officina quando vuoi, se non ci sono io lo lascio detto. Già passo io, ma ti devo occupare. Alla che acconto, è venuta con la Luca, un funebile. No, quello ce l'ha già, è il suo L-93, Natalia. Ah, le voglio di diciamo. Io sto uscendo con l'M93, me. Natalia, sei amante uscito, sei amante, nuovo. E ci mancherebbe, ti la faccio meglio, vi auguro che sia amante. Subito dopo il bar c'è questa rientranza come un giardinetto. Praticamente ci sono due serrani. Ah, però lo conosco bene, quel palazzo abita lo zio di mia moglie di lì, per cui già lo conosco bene. Un palazzo nuovo è quello? No, non è nel palazzo nuovo. Come non è? Allora dov'è? Più avanti. Più avanti del palazzo nuovo. Tappa, vabbè, non c'è molto da sbagliare, sarà 10 metri più avanti, non c'è problema. Ebbene, a Romagna non bisogna andare a pescare oggi già. No, sono andato a Salviera, fino a 5 minuti fa, 10 minuti fa, là. Eravamo lì a Piazza Mugoro. Dice che c'era la maratona, mi sta dicendo mia madre, la maratona di Alghero ed è morto uno di 45 anni. Davvero? So che c'era ciclismo a livello Giro di Sardegna, mi pare che fosse, però non ho sentito nulla. A meno che non sia ciclismo, mia madre l'ha confuso, ha detto c'era una gara di maratona, infatti mi piace la maratona, magari è ciclismo proprio, un tipo di 45 anni dice che è morto di infarto. No, non lo so. Ho sentito dire alla radio appunto che c'era questo Giro di Sardegna, Giro di Sardegna che comprendeva anche la zona di Alghero. No, non lo so, non l'ho letto da nessuna parte, se ne è sentito. So che inizia adesso il Rally di Sardegna, il Rally d'Italia, campionato mondiale, però ma quello è bello. KK, dice che sta che è morto, un ragazzo di 45 anni di Alghero. Dipende da lì. E mi riprendi, giù. Mi sembra che me ne vado a far fare. Che farò qualcosa e me ne vado a far fare. Capito? Poi quando vuoi vieni a prenderti con l'affare con il mixer, mi dà lì, tanto non conviene quello lì metterlo a posto. Ma Roberto, va bene. Ho un quesito da fare. A chi è già? A chi è? A chi è? Tu che ti intendi di orologi? No, ti faccio quanto. Oggi, cioè ieri mi è capitato che sono andato a una cerimonia, ma io per ogni occasione c'è un tipo di orologio, quindi ho messo quell'ultrapiatto. Più praticamente il calendario, i giorni del mese. Vabbè, bisogna vedere se cioè, perché quelle sono parti meccaniche, il calendario è meccanico, c'è un orologio comandato al quarto, però c'è sempre una parte meccanica, voi lubrificate molte volte il dentino che comanda la colonna, che comanda lo scatto della la mezzanotte del coso, del dattario, molte volte si inceppano. Per cui è bene lubrificarlo, diciamo, aprile va bene, non è lavoro che puoi far tu, è lubrificato con degli oli particolari, diciamo, molto tempo fermo è rimasto questo orologio. Sì, praticamente io, cioè, non è fermo, sta sempre camminando, però lo uso solo alle occasioni, quando c'ho l'abito praticamente. Nell'ora da cerimonia quindi questo orologio, no, prova, lo sai già cosa puoi fare. Fagli fare lo scatto, arrivare alla mezzanotte, gli fai il mezzo scatto di un paio di ore, torni indietro e vai avanti e indietro di un paio d'ore, proprio al punto di scatto, se riesci a sbloccarlo così. Perché rimasto tra un giorno e l'altro fermo, bloccato, capito? Sì, capita, molte volte succede questo. Prova a fare come ti ho detto io, siccome la mezzanotte c'è il cambio della data, tu torna fino alle 10, diciamo normalmente 2 ore prima inizia a muoversi quel meccanismo di cambio data, torna indietro di 2 ore e poi ti vai verso mezzanotte e lo superi, grande idea, vai verso l'una e fai avanti e indietro così con la corona di carica, vedi un po' se riesci a sbloccarlo, però bisogna aprirlo e sbloccarlo dall'interno. Ai ai ai, vabbè, lavoro parlando di un'orologia così. Diciamo di sì, è l'ideale, attenzione a chi lo porti. Io sono un figlio di Washington e mi si è fermato, e cavolo può essere? Il vostro al quarto o meccanico? Al quarto, all'antesa però al quarto, a batteria, da. Ciao, carica, che modello è? Io mi lamento a fare il modello, già te lo farò vedere. Non ha mai guardato bene, mi ha dato di ferma il modello, ed è un figlio di Washington. Passava la batteria, Nassarino. Che numero della batteria, giorno da dopo. Tieni presente, anche qua si rovinano. Io ho un orologio nuovo comprato dal negozio, un Brillo, un orologio di qualità, diciamo, non per il marchio, però è un orologio ad alte prestazioni professionali subacqueo, 1000 metri, con una cassa che non finisce più, eccetera, eccetera. Quello lì, il mio primetto è stato cambiato, neanche acquistato. Partito, l'orologio era fermo, ci sono delle bobine, vanno in tilt e ce lo butti via poi. E vedete, un movimento al quarto costa una fesseria con 20 euro per la chiave, solo che i venditori, i riparatori te lo fanno pagare magari 80 euro. Già, ho questo qui è un bel orologio una volta mi ci fatto vedere, guarda, quello rosso, questo è fortunato con i figli più uomo, ne aveva un altro, l'ho tirato al muro per l'infame, e la buona cosa era una resistenza. Una bobina, non una resistenza? No, una resistenza, ma l'aveva detto un amico mio che gli aiutava lì, ce l'aveva uguale, più trappiato, laminato in oro, ma beh, davvero me, era un Philip Watts. Lo buttavo, guarda, sempre si fermava, o in ticardia, deve essere tacche, dai, si fermava. Alla fine, cazzo, l'ho tirato al muro, e da lui mi ha detto, mi dice, no, fermo, boom, e lei via, a fare un muro. L'ho fatto mille fissi la felicità e non vuol che se l'ho portato tu farà di nuovo me e io sono Mattesi sempre più di più vuoto. Bravo, bisogna sbatterli anche se un quarto diciamo è meno, cioè meno problemi rispetto a un meccanico per i colpi, però per creare dei problemi alla parte del coso era un digitale o un coso un quarto, come si chiama, lancette? No, sempre a lancette, c'era la mina di 9 fissi, tu dovevi dire. Ma bello a me, l'avevo pagato una barca di soldi, perché quei due rubi sono una barca di soldi. Anche questo cavolo dell'altro Filippo Vecchi che c'ho, questo è una barca di soldi, infatti l'ho portato un amico mio, ma non me ne ha manco toccato per il vetro. A chi lo aveva un cristallo, non so come di cavolo era, e solo la Filippo Vecchi se lo faceva aggiustare. L'ho portato lì, me l'ho fatto aggiustare, però mi si è tornato da prima. Basta, allora la terra burulizio. No, l'orologio va sempre bene, poi al limite, considerando che il free to watch è un marchio abbastanza, diciamo, importante, non è un orologio da tridisi, però si può sempre mettere in movimento nuovo, non buttarlo, almeno la cassa conserva, poi quando sarà ti conti busca un movimento, a free to watch i movimenti non li fa, ti metti in movimento, c'ha un'età, normalmente è morta, per cui è abbastanza facile trovarla. Spaccato le orecchie in cuffia, ma è spaccato la lecce. Non mi buttigliate, sennò ti ne rubito il microfono, Luca. Ma non sarà troppo alta invece la radio, Luca. Ah, va bene, va bene. No, scusate questo rientrato, No, va bene, Roberto. Volevo fare una domanda anche a Natalino. Chi è più forte? Lei non mi offende, non me la fotti nulla, Chi è più forte? Io o Roberto? Roberto, ma di cosa? Di radio o di segnale? Quella di Roberto, però diciamo così, la più fracassona diciamo. Sempre che ci porta dietro un po' di ambaradam, ma questo è considerato che va bene, dai. Spinge. Vabbè, guarda, hai fatto la prova del 48, ti dico che è veramente ultima radio, ultima. Sciappa. Vabbè, al massimo ce l'hai così. A metà è così. Prova a metterlo al massimo. Adesso al massimo, 1, 2, 3, prova 30, 40, 50. Roberto quadrato. No, già non cambia nulla. Non cambia. Vabbè, la tengo a metà, è come l'MB24, dopo la metà non c'è nulla. E invece c'hanno dei limitatori, dei compressori che oltre quel punto non vanno, se no va in saturazione. Sì, ma va a vedere un po', non la dice allora. Attenzione, però io ho più abitudini. Cos'è detto, Natalia, avete parlato in due. Il potenziometro che vuole cambiato. Ah, lo driver che comanda il coso, il guadagno. E magari la resistenza più grande ci vuole. E vedrai che aumenta. Ma non me ne frega niente di aumentare. E già tu vuoi il suo di Luca. Quello di Luca è già un microfono per 10, da quelli che spingono un bel. Infatti Luca in spalla dovrebbe abbassare un po' perché posso fare la cassona, la radio sono così già a portarla a livello della sua, diciamo, che sia chiara, forte e chiara, là, allo stesso tempo, ma non fa cassona, perché quando fai queste normali è bene che sia riposante la radio, là, che sia solo schiera, più bassa è meglio, là, non va bene quando è troppo fracassona, diciamo così. Scusate un attimo, datemi qualche minuto per la caricare. Capa roba, ma c'è un brutto vizio, mi sembra mangiare lì. Dico, ma se tu devi andare in sud, davvero non vedo che andate. Io ci prende il bagaglio, mangia il banino, lui mi ha rossito tutto. E ma ci mangia due pettini, due pezzi di pollo, il panatti, l'araccio e il bus. Adesso va a posto. A domani, va. No, va bene. Va bene, io mangio tre cose su panini al mare. Panini, scatolette, roba così. Perché oggi vi può portare gratis con questo non avevamo voluto. Sì, ma se ci vi facciamo per sorriso Martini, buon Martini. Cappa, cappa. Comunque Gianni, giù stanno pescando, stanno pescando. Dove giù? Giù. Stanno a Porto Torre. Stanno adesso, stanno pescando. E lasciali pescare, quando vogliono avvelenarti, poi se la fai loro. Speriamo che non lo vedano, invece, perché se la avvelenano anche gli altri. Infatti, non conviene andare a pescare, anche io la gente dice, non mi è mai piaciuto, né in un luogo né nell'altro. A tutti io lo sapevo di vedere americani, che cose, non mi è mai piaciuto, la verità. Io l'ho sempre detto, dillo a Gianni, ve l'ha sempre detto, che a Gianni che a Franco lì non mi è mai piaciuto andare a pescare. Sì, ma il posto che è inquinato è quello là, è quello al Molovale, l'hanno sempre detto anche le morti a tutti. Quello dove vado io, cioè, ho visto con i commenti, e qui siamo partiti. Ma non me l'ho guidato già, le macchine figlie non me l'ho guidato. Stabilità e giustizia, era andato in altri luoghi qua. E capace era andato più verso l'ara di Rosso, in Chiglia, la marina, vicino alla marina di Rosso, e mi si è pescato la spiaggia, solo che la varia di, ci vogliono le canne da lancio, questo e quest'altro, capisci? Però in Chiglia mi era piaciuto di più, era questo. Oppure avrei cambiato zona. Infatti io vado di spiaggia adesso, domani mi compro pesca, dopo che accompagno i bambini e me ne sono a pescare, non me ne ha fatti nulla. Via da sé, invece mi tocca a sé che pesci nobili, e ne busso la vita. Sì, ma anche tu, per qualche giorno potresti far dare il cambio, non ho capito. Ti danno il cambio, un giorno mi credo te lo prendi, non ho capito, un giorno devi prendere, non te lo puoi mirare la vita. Se non venisse una vada, mi sa, due mesi che travaglia 7 giorni su 7, Angelo, quindi non c'è nessuno neanche domani. Domani sarebbe stato l'ideale, vedi? E invece no, non posso fare niente perché non c'è nessuno. Quindi no, che se non venisse uno, puoi andare, un preso da già. Sì, io glielo capisco, sì, la capisco. Io lo capisco. E mezzo di mia non lo può fare. No, che lavora pure lì, se no non me l'ha avviato, ma non c'è tamburo. Di Dio. Allora, questa radio come va l'altra lì? In molto forte. Sì, già va bene, di tutto. Già, non c'è problema. Cosa vuoi fare già? Purtroppo io non mi fido a mollare la... Poi sta a 5 minuti già venti. O è dormita, ma se è citata a 5 minuti, guarda, che ti chiama. Allora stasera, mi ha reso la vita di tutti, tu non ci credi. Allora è dormita, già a fare la poltrona, non dormita. Finta, magari avanti c'è da verso l'una, mezzanotte e mi rompe le balle. Ogni 5 minuti mi sta chiamando, il parco a parte poi ti chiama, dice vai qua, la fretta mi sei biglietti. Io lo capisco, poi io che cazzo che a me non mi piace stare nel tuo gare, figura di lui. Per me sarebbe stata la morte, perché io a stare nel tuo caso non ci riesco. Io avevo preferito mille volte Garra Cantone che stai in occhio, non vi credi tu? Non ti credo, almeno se sei legato se vai a posto. Ah, mi sto finendo tutti i diritti di mia maraviglia, tu guardi, dopo due anni, sono un buco. Mi si sta indemolendo il fisico, quindi io me ne sono accorto, guarda che non è possibile stare così. Perché la minima cosa, sacco, quel quell'aria, ho visto, ho ridato, qua è una cosa che non si crede, anche in prigione. Lo so, perché se non esci non ti abitui agli anticorpi e tutto quanto. Boh. E non so, ma solo non mi piace andare a Tari. Cioè prima già andavo lì a Polonese perché conoscevo a tutti, ma adesso dovevo la porta muore, se fa andare da lancio, un lancio vicino, buonanotte, ma per la prima settimana che c'è il mare alto. Non cazzo. E vabbè, io sapevo che ti dice. E manca a me solo mi piace andare, io solo non mi piace, che forse di me. Al adesso vediamo un po' se riesco a recuperare qualche giorno libero. Anch'io farò qualcosa, perché a fare sempre qui mi sta stressando, no? Non ce la faccio più. E tu hai detto di una giornata libera, pigliati un paio di panini e andatene a pescare. Ti fai 4 giorni tardi, peschi, se non peschi non fa nulla, intanto si passa una giornata diversa, là. Infatti, tanto a me noi mi piace, noi sono di vita accaniti, quindi se non figlio nulla non me ne affutti niente, capisci? Là? Non siamo di quelli accaniti che devono a fare questa bottina. Ma dopo che feci qualcosa di grosso grosso, ti viene voglia di essere accanito, ti compare di esche, ivi, di bar, carni nuovi. Quindi Franco, ma è un bene, è stato comprato qualcosa perché gli piace. Vabbè, io penso che mi rimasti la cana pure a Edo, quindi tutti gli scivinà, ok? Se non puoi andare a pescare, quindi devi dedicarti a lui, devi andare a certo gioco, impararsi l'esca, cosa che io noi gli piace assai, mi accorgo, e quindi tutti gli scivinà in esca. Ma in spiaggia, come anche i canolicchi in spiaggia, se vuoi pescare latte vanno bene anche i canolicchi, i gatti interi. Sì, lo so come l'abbiamo avuto, no? Però bisognerebbe che qualcuno avesse una barchetta, qualche cosa lì per portare nel fuoco. Una volta l'abbiamo fatto con Franco e siamo andati proprio io a lampare, direi, io vedo a lampare dentro e fuori, compreso, e abbiamo buttato dentro a fuori e le lanciavamo dalla barca, capito là? Andiamo piano piano via, poi se ne andiamo indietro con la barca. Sì, adesso l'ho fatto anch'io con la tiroga, ma con l'altro dove lo facevamo con un gommoncino di quelli gonfiabili. Allora si buzzava la bomba in ferro e me li portava a largo. Sì, già lo so, già lo so. E anche un gommoncino, no? Capito? Ma se sei in due uno mantieni l'esca da problema. Una volta poi che sono buttate le cose, le lenze, se ne torni, capisci? Quindi si fa segnare dalla villa con le barche, io lo facevo con la fila perché la mattina andavamo di notte. C'è una cosa del gaggiuto in pieno inverno, neva, c'era una rondina, di quelle onde lunghe c'erano, oggi è bella pescare. Allora io per farvi, io in una carota e lasciamo uscire. E via, ho fatto un bagno, ho fatto un mondante, lì non ti mi avrei. Una volta sono rimasti i mondanti io e Angelo. Ci stanno prima di mettere i carabinieri e noi eravamo in mondante. Faccio qualcuno a socio, Sempre di fuori, vero? Chi c'è sotto? Avanti. So che sono camionisti. Tipo ieri ho fatto la chiamata, pensavo che non controllo, io da dire. Non sono camionisti, sono Sì, ma non so di chi linga è. Yeah. su due, più un altro a colori piccolo, per quel che non la parte, tutto quanto, poi a colori. Qua ognuno c'ha il suo, c'è il mio, ma c'ha il suo, mi guarda, ognuno c'ha il suo qua. Io ho 21 pollici nella mia casa, ce l'ho già 3 anni, ho fatto 220 stamattina. Però questo c'è molto più alto che il televisore. Aspetta. Praticamente c'è un'antenna, abbiamo messo due fili e abbiamo messo la mia, qua di mamma e l'altra, e non c'è la mia. Non so, questa è nulla. Infatti se voglio mettere la parabolica, poi vediamo. Non c'ho questo, la passione del televisore, guardo solo documentari e telegiornali, bomba. Io faccio qualche film interessante, lo guardo, altrimenti no, non è che c'era. Dai, io lo guardo, no, non mi interessa. Allora, qua cosa c'è? Sì, TV, questa è la mia terra, no, sfondata. Poi, film, reazione a catena, tic-tac. Serie TV, La Buona Battaglia, PT 4400, blu, quella è 2, e 3, le porte, poi non so, non mi attenuta. Perché quindi ascolti, ogni volta Marco entra la mattina della bicicletta e mi acceca, al buio. Sì, io sempre al buio, intanto c'è delle luci, degli apparecchi. Ah, sul televisore l'ho spento, l'ho pitturato. Sono nato? Sì, sta facendo. E via, c'è un po' di un caffè, ho c'ho un mal di stomaco, ho una cuffia, la carità. Ehi, quello che vado sul lato? No, non è c'ho un mal di stomaco forte, boh, tipo... Adesso un po' mi è passato, forse mai era la fame, cosa mi so. Ma poco fa, ma non sbaglio, a parte che faceva schifo il caffè, per carità. No, io, per carità, guarda. Ma, questo è un cosa. Cosa ripeto, ascolta, sono mia mamma. No, ti sta ascoltando, sto rispondendo a mia moglie. Fermate, perché il cattivo si dice la giura. Ora, ora, ora. Sì, sì. So, ora, ora, ora, 2, 3, 2, 3, 4, 50, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ma... Dovia, scritta. Vediamo un po', Roberto. Roberto, ma mi cado a sana, Roberto, Roberto, Roberto. Attento, Roberto Quadrato. Quando mi piace un panini. Kappa kappa. Ui ui ui. Comunque, forse posso, forse. E tra la ragazza paracchino, forse, non lo so. Ma come vuole entrare? Poi mai te non vuole. Ah, sposata, quindi non è ragazza. Più piccola di me, c'ha 29 anni sempre. Sposata, due figli, piccoli. E prima parlava anni fa. Forse extra. Non me lo ricordo, cioè, non è facile. Tanto sono su a te. Sicuramente non la conosci. C'ha l'antenna sul tetto. Però a casa della madre. Certo che forse vuole, cioè, vuole entrare. Se entra bene a cerca non c'è problema. Se vuole entrare non c'è problema. Io ho detto, c'è l'unica ragazza, donna, non te la voglio chiamare, che aggrediamo, Sì, non è l'unica donna, c'è Teresa, c'è mia moglie che ogni tanto fa la battutina. Già, uno è fare la battutina, uno è parlarci, un'oretta, mezz'ora o quattro d'ora, visto che è. Mi sta sentendo mia madre, anche se mi stressa l'anima, baracchino qua, baracchino là, tanto si tratta. Cosa ti stavo dicendo? Ma per Teresa entra, Luisa entra, e sono donne lo stesso. E l'accetta già, c'entra niente, ma prima ce n'è un bel. Te ne ricordi Consuelo, poi c'era Samantha, te ne ricordi? Sì, sono quelle che me le ricordo. Chi gliela avessi se sa qualche cosa di me di Samantha? Non ho capito. Chi gliela avessi se lo sa qualche cosa di me di Samantha? Ma Consuelo lo stesso era la sorella. Cosa? C'era anche la sorella di Samantha. Ho capito già. Ho capito. Se sa, chi la qualcuno se sa di me di Samantha. E poi la sorella usava entrare. Purtroppo anche la sorella di Samantha. Non me la ricordo, San Giovanni, mi sembra che erano lì punti, se non mi ricordo, comunque funziona lì punti perché la conosco pure, la cugina di un vicino di casa, l'ho conosciuta in verticale, poi ho conosciuto Fabrizio, infatti lì sono cecchi, conveniente, cecchi a buttare a favore. Fabrizio Toro Bianco mi pare, l'hai conosciuto? Io ho conosciuto in persona. Abbiamo suonato insieme campagna di vostro vicino di casa, è la chitarra, ma un mostro, stiamo cantando, micidiale. No, non ho conosciuto Fabrizio, non me lo ricordo, per dove. Fabrizio Toro Bianco, poi c'era fratello. Lo stesso entrava a baracchino e veniva niente. Chi è che vuole entrare avanti? Consuelo! Che hai visto? E Svoia! È finito, eh! È finito, dico tu, 3, 4, 7, 24, 26, 27, 26. Luca Puglioni, eh? Qual era il numero già? Dimmelo, che così lo dico in frequenza. 25, 36, 06. Mio è 3, 4. 24, 2, 3, 4, 7, metti in piedi, 7, 25. Comunque quel pezzo, questa la foto, quel pezzo che si è messo proprio a voce, tutti su, un cannibale, proprio uno, quel tipo che lo fa ascoltando, ci vuole stare in cazzo, no? Adesso era appena, lo faccio, non c'ho un MP3 per ascoltarlo. Ma se, guarda, è rimasto di stucco. Cazzo, non di guerrillo, al baracchino, gli ho fatto la baracchino invece. Ehi, cazzo, c'è domani, sa poi si rimane in capo. Poi si è messa la voce. E quando Piero Drago, cioè, qualcuno era incazzato il giorno con Piero Drago, mi ha detto di sicuro, vieni qui, cazzo, che ti rompono so cosa, Falcone, a Piero, e Piero ne si giù, mi ammacco e così dopo mi si consiglia. Siamo arrivati lì, allora fa, entriamo al bar. Marco, ma qui tutta questa gente e ha fatto, ma io ho 4.000 lire, cioè 4.000 lire tutte da 500, cioè pare da bere a tutto, così va via. La tua vita ha combinato. E la partita che avevamo fatto, che c'era anche parte di Abruli, te lo ricordi già? Sì, ci bini sassa di quando ci bini forzosi nel fareghero, ma cosa leggi? Non è che tu lasci ancora la piccola schivamba. Che la mafiosa. Ma guarda, se lo vedevi mi sbuccava solo il naso, tutti di bello, tutto pieno. E allora, ma anche la fotografia gli avevano fatto, io non mi ricordo chi ce l'ha con la fotografia. Nel sito di internet c'era. Ah, mamma. C'è la fotografia sua, capito? Si vede il naso suo. Avevano tutto le pittorie di bambar, barucchetto qua, i miei capelli in faccia, erano tutti i batti di Lungondo. Che storia. Si lascia su qualcosa. Una volta lo stesso. Stavo parlando io. Falcone e questo Cirio 2, il senso di vecchio. Ci ho fatto puntata con questo CD2 e facendo la falcone, e se lo va a regalare un microfono per chi cazzo. Ciao, guarda. Possiamo andare di inchio, dici, suona tu. No, suona tu. Ah, io non suono, l'altro ti dà il microfono, che lo devi dare a me. Suona. Buonasera signora, lo risposto io, buonasera signora, c'è Poletto? E chi siete voi? No signora, guardi, sono stato a Poletto perché devo regalare un microfono a un amico perché il suo non funziona. Andate per via, non ho bisogno di regalare un cazzo a nessuno, vattene via, buttatela in faccia. Oh, poi a Poletto, siamo rientrati a casa. Dopo, questo è 7, 8 di sera, è entrato. Ho detto bravo, sì, povero, detto, no io, le ho detto, questo sì, conosci io. Mi ha fatto venire da l'altro, ma mi ha rimasto la porta in faccia. Non so, mi ha mai detto così. No, va bene, povero. Sembra come sei incazzato, il maletto. Ma cosa vuoi da me, però, eh? Cosa vuoi? Ti vuoi regalare il microfono, eh? Ma ti vuoi sputare la banchina che ti vuoi regalare il microfono, eh? Ma cosa vuoi, però, bene a me? Sì, è il numero del mondo. Perché la volta che ha fatto il programma che voleva non portarsi 80 canali mi dubita la una manifestazione in fiscia, lui vuole anche la vita, ma ha chiamato il camaraggio e mi ha detto io a mio figlio non gli manca nulla, quello che gli dico io li posso comprare. Se ho stato l'altro l'avrei messo una gabbiera come gli altri fratelli, mi ha detto purtroppo è così, che una volta l'hanno messo al telefono a rispondere, ha fatto il gioco della carta al cliente, non avevi un borsa, non carico del telefono era voi. Se lui gli dà quel portatile, lui se ne va da una strada a parlare, lui mette sotto qualche vacca, se mi capisci che non che non volevo comprare, perché lui ne potrei comprare non uno, anche 50. Vabbè. E qualcuno gli ha, con la macchina gli ha stacciato l'antenna. Andiamo ad aprire. Ecco via. Tu non si scherzava, tu non si scherzava. No, ma te ne vuoi per la tra capitoli? Bisogna. Ma l'esterno. Non lo so, come se la verità non lo so, comunque già sta legato la corda e poi legata la macchina, io vai a casa. E legata la prendo tutto. Dalla punta le luci erano legate, no? Ma la verità non lo so, comunque veniva ritrattata. E poi la luce l'hanno rimessa. Non lo so, mette la verità non lo so. Chi l'ha piazzata? Ma chi lo stava ascoltando? Il CD. Ma qui lo vado a dire pure, se non lo vado a dare. Lui parla di sì. Perché quando parlava lui, se lo dago o lui, quando parlava lui sentiva un bip. Comunque l'hai fatto, lo stai ascoltando, l'MP3. Questa è un'altra che ho ragione io, che era un MP3. Ma il mio lo legge il computer, capito? Adesso l'ho messo in macchina, tanto è sconnessito, lui da me, quindi si dice se è un MP3 o se è normale, dice. Se no c'è un programma che dovrebbe trasformare da MP3 a file normali, capito? A file musicali normali. Non so, ma ci vuole il programma. Ce l'avevo io, ragazzi, se no lo vado su internet e ve lo busco. Comunque gli MP3 me lo ricordo, perché non tutti quanti i MP3 li avevo scaricati così. Ma è un CD normale, non ci stanno quei brani lì. No, è un bel roba me la sta lì. È un bel che voglio provare, ma lo guardo io nella situazione. Avanti Lucchetto. Luca. Oh Luca. C'è dove sono la mosso? Comunque, Già, deve essere un bello spettacolo, perché mi sento ridere sempre, ma non l'ho visto perché non c'è televisore qua. Sta suonando con i amico, sì. Ma anche un amico ci sono di Sassari. Sono di Sassari. Lui non sembra che è spagnolo. Ma scusate, è bravo, ma non sono acchittato, eh. Bravissimo, bravissimo. È un solista, guarda, c'è la tua Rosai, ma per dire, secondo me è più bravo. Tutto, mamma mia, un sogno, capo, un sogno. Io sono amico del fratello di Antonio, di Edoardo. Antonio è bravo, non c'è niente da dirle, è bravissimo anche lui. Però Virgilio, capo, lo stesso. Quando vado a chitarra già mi viene... Lo zuzzo mi viene, lo zuzzo. Specialmente quando fa il solista, mamma mia, cosa vuoi dire? Io non ho la possibilità di andare al conservatorio, no, non c'è qualcosa che ho imparato. Ma ti dico che tanti, tanti hanno imparato così tramite il nastro, eh. E io non mi sono guardato riuscito, ma a me non mi ha preso l'affetto di, insomma, se mi metto già imparo. Ma vai, via vai. Adesso voglio comprare la chitarra, la spalla mancante e poi vediamo. La prima ho regalato la chitarra con Luca. Io che canale sei, Luca? Amplificata. A 10 sono tali. No, nella televisione. €3. Sei a Benito. Mi sono a Benito. Non sono a Benito, mamma mia. Tanto è buona, mamma mia. Ah, io guardare non toccare roba da creare. È buona, è buona. È una bella ragazza, una bella donna. Una bella donna. Poi tu mi sempre dove è. Non li hai visti da tali quelli che fanno... Cosa mai può fare li visti? Quelli che fanno tu pazzi. Quelli sono tanti di Sassari. E lui, Bianca. Mira, con la stessa problema, non mi so con la canzone della... Ma sentite che canzone? Quelli di Milano hanno tutti l'anno, quello fa così. L'ho sentita perché non so quella. E è che la vincio, siccome prima l'hanno fatto vicino a una chiesa, era la sala di una chiesa, capito, l'ha fatto questa festa del compleanno, e è venuta tutta a trovarci. C'è stato una mezz'oretta, un'oretta, ha gustato i dolci e così che se n'è andata. E si quello c'era perché c'è la musica normale da ballare, però tutti ballando. E poi sono messo come se andate il pene, hanno messo queste musiche di Telomar, Smartica, come di Giuseppe Tomaria. Fai che abulisse. Che cazzo di Vasco Rossi ha fatto? Fa spagnola. Una volta ha detto Sì, poi la vecchia qui c'era mia nonna, ci ha messo i denti, ci ha messo la dentiera, quando non ridete non l'ho rata. Polizia, guarda, guardate polizia. Sì, ma sì, allo stesso, vabbè, giovane lui, ma... E tu due, ne sa un bel. Ma, tu prendi, se dire, tu qui c'è farmacia, ma tu questa... La stazione Rai 1, la stessa Italia 1, ha come i programmi. Che stavolta non ci è arrivato. Sì, vabbè, là, ci sono più carri là. Quindi tu grazie a sono andato anche con Imberta. Imberta c'era un gruppo famoso dove noi ritrovavamo tutte le parti più, l'ha già conosciuto da prima. Io c'ho un disco di Imberta. Sì, c'era su Monte Giugliaro esaurista, la visa numero uno, il cameriere, scusi, ci porti una gazzosa. Barrita, se non Berta. Berta. Barrita, se era Benito Benito Ugo, e Berta, se non Berta ne usa. Ah, lì c'ho un... non so se è buono, ma io la verità non l'ho riscosso. Però io c'ho... un coso mi hanno regalato un disco, un bel vecchio, c'è la custodia anche. Sono in Berta. E tu giri che ce l'hai? Sì, ce l'ho, però c'è la cinghia che si è slabrata. E tu metti una cazzo alla donna? Eh? Tu vuoi una cazzo di femmina, e va bene lo stesso. Cazzo di femmina? Vabbè, sto scherzando, dai. Lo sai come si fa, no? Quando si rompe la cinghia della macchina. Se non c'è via, prima gli devi mettere una cazzo di donna e va e continua a andare. via. Ciao parlo davanti al microfono, mi ha smontato a vedere un po' la situazione. Andiamo a vedere, mi chiamo, vedi, certo ci ha suicidato, no, beh, sono premeritato, sono stata una cagata, lo elimino, mi tengo solo la custodia e ci metto un tratto serio, perché mi faccio un tratto tipo l'MB più 4 e li metto una capsula seria, perché la forma è bellina, non hai visto, ma anche se è antico pure è nuovo nuovo. Però tu hai detto mi pigiava, mi sciagato, stivi di mezzo al 2004, vabbè, ecco. Vabbè, ti ha pigiato, questo di vero, se ti arriva a capo va a zemare. Quello da capo 2004 non ci fa zemare. Tutti e due va a zemare, ma pure lui che va a zemare, c'ha le punte più arrotondate, nel più 4 è tondo, lui che va a spigoli vivi. Ma non è che sia stato pesante, quindi cazzo. Tu un microfono un po' pesante. Più 4 è pesante, ma leggero. Arriva a capo 2004. Adesso come ti ho sbagliato nel più 4. Sono convintissimo. L'ho fatto vedere a Franco il microfono, Roberto. Ah, scusa la volta, ha fatto la volta, Roberto, micidiale, bello là, l'uomo nuoto ha fatto. Vabbè, mi vuole c'ha il microfono. Ma stavo dicendo, no vabbè, gli hanno fatto un favore a me, non la c'entra. Quale frecce voleva sapere come gli è fatto? Sono una gaga. Ti sto dicendo Luca, è che è trasferibile, noi quando facevamo i progetti, tutte le indicazioni del coso del progetto utilizzavi le lettere trasferibili, purtroppo quelle che c'ho io sono tutte rovinate, perché ho provato a metterle e non attaccano più, se no ci sono tutti i disegni, ti puoi fare qualunque cosa, ti posso rifare una serigrafia come vuoi, originale lo volevo fare, purtroppo non ne avevo di quelle scritte. Sì, ma dimmi una cosa Roberto, però la cosa la sapere un po' la falso mi bello, quella che fa tutto nuova, guarda, è diversa dal più 4, c'è un altro di disegno, no? È precisa, identica, le stesse misure, è identica all'MB più 4, ho preso le misure quella è 9x6,5, il buco è lo stesso, è perfetto, solo che ci sono delle scritte nell'MB più 4. Sei sicuro che non è che è proprio più lunga? Cioè più lunga insomma spiegato. Tipo quella del più 5 rimane, no? No, Luca, è precisa identica, ho preso le misure identica, il più 5 è identica a quello, solo che c'ha lo strumentino e buh. Hai visto che tu sotto la carcassa c'è il buco rettangolare? Quello lì è per mettere lo strumentino. Poi l'MB più 9 c'ha anche l'indicatore, cioè il regolatore dell'ecco, e c'ha un altro pezzino sopra, un potenziometro. Sono identici i microfoni, cioè non cambia niente. Comunque non entrava il potenziometro, sono dovuto allargare con la forbice, non lo strappano. L'hai fatto più piccolo il buco. L'hai fatto leggermente più piccolo. Ma non poi l'ho allargato con la forbice che non avevi strappo, non avevi nulla. Mi è entrato, forza, ma è entrato. Ah, basta toccare alluminio, quello con la larghi anche con le forbici, girandola intorno la voglia che entrava. Che fa che ha fatto con la voletto lì? Cavolo, più piccolo ma ha fatto il buco. Non entrava. E poi gli ho passato la forbice. È entrato, era forza, ma è entrato, stavo già iniziando a rovinare il buco, stavo facendo un po' maluccio, un po' pestivo, vabbè, siccome, ma pure adesso l'hai cominciato, non è? Capa, se un attimino lui, perché sono stagionato, ma sta rubando una sedia. Aspetta, a 2 vi lascio. Anche io, a 0. No, omicidiale. Cioè, già, vero? Avvero. Attenzione, Franco California, se ce l'ascolto, cambio. Franco, a Franco. Oh, lui. Sì, a Roma. Allora, hai detto di chi ti dà le mani a Gianni? Chi ti dà le mani, chi ti dà le mani? Provi, oh, non mi ricordo Roma. Ah, sì. No, mai no. No, ecco, vabbè, diglielo tu. Guarda, ve ne era uno già senza far nome, era micidiale ieri. Era un'ora attaccata allo microfono, ne bussava una che valeva le quattro. E chi era? La tizia. Eia. Ehi, ma è normale per lui. E gli alunni non buoni. No, lo so, era micidiale ieri. Mi ha telefonato, credo che stavo parlando male quando ho capito io. Che ci vuole andare, guarda, uccidiare, sapevo ci mucchiare. Certe parole non si mangiava proprio, non si capiva niente. Infatti dopo ti diceva, scusa, poi ripeto, non capisco. Quindi pensi? Il solo. Guarda, c'è una bella, quella Luca Pippa Gesù e Cotto. Oh, ne ho sentito un altro tempo fa, lo stesso, che stava a mezz'ora a vedendi, lento, lento, lento, chi si poteva disastrare, ne aveva una, lo stesso non si alzava. Sì, ti dico lento, ecco. Ma poi non te ne accorgi neanche, perché parli molto lento, tutto rilassato, e non ti accorgi che devo parlare gli altri, sai, 5 minuti va vedendo di continuo. Fatti dire a Roberto già. Facciamo rispondere agli altri, se no qua parli solo tu, faremo solo noi due, non un casino. Poi alla fine mi sono detto a Roberto, vabbè, devo fare il corriccio nel bagno, a buttarcela. E poi non sono più rientrato. Stavo ascoltando un po' e intanto coso. Chi si chiama? Mario. Mario è entrato, ed era proprio ben dietro. Sembra che tu lavori, sì. Quello di Sassari. Qui l'altro. E prima di altri colpi. Sì, è stato di Sassari, sono. Riesci a vedere. A questa. Sul tetto, ho preso un baracchino, ho fatto la concessione, Ma poco e niente, l'avevo usato più o meno un mese. Insomma, su corta, mi avevo tagliato tre volte il capo e qua mi sono arreso. Sacca di tutto. Io non mi sono arreso, se mi vedi dovrei far vedere, dovrei far valere. Chiamano spotteva, ma faccio il break, dicevo due stronzate, mi giocava di Ayana, mi stai disturbando, quindi baracchino. Oh Mario, non si è sentito? Cosa? Mario, non si è sentito? No, non è capito. Intendi già. Guarda, ti sto dicendo, le l'occhio sembra che si muova, sono riflessi della luce, perché sono perfetti gli occhi, i capelli, la pelle, i vestiti, cioè sembrano uomini veri o donne vere. Il cinghiale sono gli occhi, la cosa mi ha impressionato più di lo sguardo, sembra che ti guardino veramente, ti seguono con lo sguardo. Io ho visto quello che c'è a Roma, stai girando un bel esempio, è un bel grande. C'è di tutto, capito? Però ti proibisco come fotografarli, perché il flash potrebbe sciogliere la cera. E io mi ho imboscato la macchina fotografica. Mettevo mia moglie come a Paolo, li fotografavamo spesso. No, lui li fotografavano tutti quanti, veniva un po' da lì, con le macchine fotografiche e telefoni che si mettevano a fianco al fisco, eccetera, eccetera. Se è capito, io ho fatto delle due figlie, non è che aggiungi niente di là. Comunque, bisogna farli rivedere. Ci sono cose tu gli armati. Sana, non sono molti. Io adesso vi fanno meno 3,25, ce ne sono, ma è una caga. Ti posso dire che sono pochi, però se li guardi con interesse. Ti posso dire che mi piace anche a me. Poi i bambini diventano simili. ma la piccolina me l'ha terrorizzata, se ne fa paura. C'è Marco, che è come la trincia buia, non so se mi hai visto quel film. La teme, non so perché. Perché ha visto che lanciava i bambini, ha visto che prendeva e li lanciava. E come fa la cattiva mia moglie dice, guarda che chiede se la fa la trincia buia, subito fa la brava. Sì, diciamo di sì, è un po' bene. Che ha pagato. sarebbe domenica. No, adesso no, lo sta cambiando, ecco perché è così. Parlo della notte dorme di notte. Ah, sì, sì. Vabbè, ci sveglia allora la pompata, va. Non è come te me che se lui per 13 mesi piangeva di notte. Ecco, no, vabbè, dai. Si può resistere già. Vabbè, se resiste perché si deve fare? C'è qualcuno che deve anche ammazzare i figli perché piango. Vabbè. No, già sono Giulia, cavolo. Interessante se va molto bene da lui. Sembrava avesse preso qualcosa, ero vicino di dire, guardando, ho detto ho preso, però alla fine ho detto no, ha portato a 135 metri la lenza fuori, c'è un canottino, l'ha portato a fuori. Beh, così è buono volurare, al lancio che bisogna prendere. Ma dice, non è lui, siccome abita di lì, c'è tutto l'inverno, la prima che ne tira fuori. Vabbè, comunque, ma chi è quello del mare? No, loro non pescano, quello del mare non pesca. Ora che mare. Avvio. Ti stavo dicendo molto spesso con lo storico. Non è polacca, comunque è russa. O russa, boh. Vabbè, comunque ti stavo dicendo che così è facile, se prendevamo anche in là quindi qua a questo pittine così con canottino. Ogni volta che la abbigliato, dopo di mezz'ora abbigliato. Ma lui dice tutto l'inverno, la prima che tira fuori. Ma sempre con lo stesso metodo? Non so se è con lo stesso metodo, però dice che tutto l'inverno che sta pescando. No, col canottino non credo, tutto l'inverno, però che butta, dice ogni giorno, butta, lui abita sopra la spiaggia, tutto l'inverno che butta, però dice una fila d'urda di importante. Sì, ma lui deve sapere che deve latte, essere pescatore che arrivano adesso, non è che dice tutto l'inverno, le latte si allontanano, Vabbè, dipende, non è che io sono pescatore, Gucci è appassionato, non è pescatore. È appassionato, sto dicendo. Sì, le stagioni di buona, però le sono a settembre. E quindi le latte che vanno a fare le uova sono ben mani, un bel bello. Ma io ti dico, quelle grandi c'è la soddisfazione del pelle, però da mangiare preferisco quelle normali, 500 grammi. Anzi, se sarebbe meglio puro. No, la latte è migliore. Ma io ti dico una cosa, quella grande c'è più poca, però nel resto c'è ragione tu, è più buono con la 800 grammi, 900, anche un chilo, eh. Ma con le grosse cose non sono sapute quanto le piccole, perlomeno io non ho mangiato una e l'altra. Guarda, ne ha preso una, un amico mio, che non voleva venire mai a pescare perché non gli piaceva, l'ho convinto io, gli ho dato la canna, ha detto, una delle canne mie, gliel'ho lanciata io, gli ho detto, questa è la canna, controllata. Cosa è passato? Un paio d'ore. E ha pigliato una lata di 4,950 kg, lui, con la canna mia, ha lanciato la mezzo. E tu non te l'hai ritirato il pesce? No, ho voluto farlo tirare a lui apposta. Da giorno è diventato un appassionato di pesca, pesca certi pesci, va a 20 addirittura, va a poco ferro, pesca col vivo, a tutti gli accetti di 10 la moglie, già nella mezza la fissazione, non c'è mai in casa il sabato adesso. Così poi quando ti entra la folla che peschi ti viene subito la cosa, la voglia di andare e fare, ma non è sempre festa, no? È diventato un bel bravo Romè, sto dicendo che quello là ti ha detto adesso cosa facciamo, la canna è mia. L'ho armata io, te l'ho lanciata io, così che facciamo, l'esca era la mia. E mi ha detto, vai, facciamo una cosa. La portiamo in campagna, ci mangiamo tutti gli amici. Io sono buttata in campagna, aveva mezzo chilo di uova lenta. Mezzo chilo di gomma? Di uova. Davvero, le uova si buttano via, mica si mangiano. Se non le mangiavi, noi ce le abbiamo mangiate. Le avete mangiate? E allora, se sono buone, le vedete, si buttano via, chi l'ha detto? Chi è che ti ha mai detto che le uova si buttano via? Io ho fatto un'interrogazione, ho detto, ce l'avete buttate, punto interrogativo. No, l'abbiamo fatta arrosto. Abbiamo fatto tutto arrosto, sia la lata a tranche, e poi abbiamo fatto anche le uova. Capite? Sono buone le uova da mangiare, è perché le uova di caviale non lo mangi. Guarda, il caviale l'ho assaggiato, ma sinceramente se non esistesse non me ne fregherebbe proprio niente, non sono per niente appassionato. Non so la gente come ti vai a fissarsi. E tutti gli aristocratici perché costa molto, te l'ho preso. Anche io l'ho assaggiato, a me non piace, sinceramente. Sì, era cagata, non sa di niente, è nero, sia nero che rosso. Non mi dici proprio nulla. No. Ma di mugine le mangiate, sì. No, non credo che era di mucina, no. Era una cosa, un affare importante, un pranzo importante, non penso era roba di mucina, perché ero a Coso, in un locale di Bologna, molto ma molto rinomato, il più importante di Bologna. Se cambiare caviale, di solito mettono quello di mucina fanno le bruschette con l'uva di mucina. No, questo è un locale, ti sto dicendo, il più chic di Bologna, e si chiama, mi sembra, il pescatore, una cosa dentro, sembra che sia dentro uno di quelle, come si chiama, di quei galeoni spagnoli, dentro all'interno, era una cosa, in vita mia non sono mai andato in un posto così rinnovato, micidiale, diciamo c'erano tante cose che non avevo mai mangiato, ho voluto assaggiare questo caviale, però non è che mangiati la dubitante. Io l'ho mangiato una volta, lo stesso, un matrimonio, ma di gente molto importante, lo stesso. E c'erano sia, sia il caviale, sia queste patatine con, non mi veniva la parola, anche un bruschetto, ma no, patatine. Patatine con le uova di mugine e uova di caviale, tutte quante in fila. C'è una serie di caviale che li mugge, infatti c'era il caviale, queste sono le mugge e queste sono i caviale. No, mi vuoi valere tutto quello che ti piace, mamma mia, non mi attirano proprio. A me non mi attirano nemmeno le alici salate, tutte quelle cose che mangiano, boh, che schifo. No, quelle sì che le mangio, non dico che mi faccia buffate, però già le mangio, già mi piacciono. Tutte le cose piccanti e salate, diciamo, le mangio. A me piace molto la affumicata. Cosa ti piace affumicato? Tutto. La salsiccia, cosa ti posso dire? La decotta mustia. Sì, vabbè, diciamo, non è che ne vado matto, ma già le mangio, sì. Però preferisco la salsiccia normale, non affumicata. No, no. Se affumicata buona, ui, ui. Avanti, come si chiama lui? Ciao, stavo ascoltando chi? Io l'abbiamo sentito. Cazzo, ragazzo, mi sono arrivato ancora. Toccavo il programma. Poi spengo tutto. Cazzo, adesso mi sono ricordato che mia moglie ha fatto il programma su. Poi vado a dargli una regala. Stanno mangiando oggi? Sì, ecco, una volta tanto. L'ha fatto, perché io siamo andati a questa festa di compleanno, gliel'ha fatto un vassoio a loro e un vassoio l'ha fatto per casa, capito? E se ne dica tutti lì. Raccontate, perché da me se non è rimasto un goccio. Chiamo a Mario Mansell, se siete il Gran Premio puoi entrare. Sì, vabbè, se vuoi entrare, non c'è bisogno di chiamare. Da molte volte Mario ascolta e entra quando lo chiami. Ah, così. Mario è molto riservato. Cioè, non ho più sentito a Salvatore in frequenza, neanche a Giulio. Ogni tanto, vabbè, Giulio di notte mai, quasi mai. Però di giorno, qualche volta capitavo di sentirlo. Così Salvatore, lo facevo ieri lo stesso. Giulio ce l'ha questa mattina. Ecco qui. Sì, capo, ho capito. Salvatore, anche io sono. Devo passare a trovarlo perché gli ho promesso che quando gli assedi passava a trovarlo. Anche perché devo fare un certo affare e devo andare per forza. Cazzo, cazzo. Allora, vai là. Già diventerà. Salvatore si deve mettere davanti perché c'è molto tanto non quella la mia. Me l'ha fatta vedere quella. Però è una mezza truffa, me l'ha fatta vedere. Ma sai cosa dice? Vendersi nuova. L'hanno verniciata a bomboletta. Ah, ma dai. Lo sto dicendo, io me l'ha fatta vedere, non cambia niente perché l'antenna funziona eccetera eccetera, però mi guarda, questo è eBay e c'era la cosa dove c'era la carica, verniciata a bomboletta, addirittura la cromatura pure l'hanno verniciata. Deve essere cromata. Essere? Cromata. Non dire ramata. Ramata sotto, cromata sopra. Sì, la parte di sopra è cromata, sotto non lo so perché sotto non ci ho fatto caso, sopra si vedeva un po' di cromatura, infatti basta pulirlo con l'acciaio e con la parte superiore ritorna lucida, però è fatta in malafede, un discorso del genere di Ziga in Luga, invece tra una lunga usata e riverniciata. Cosa l'ha presa? Quello l'ha presa? Quando l'ha pagata c'erano nuove di zecca, 49 euro. Quelli devono essere 45 euro mi sono la pagata. Cosa nuove di zecca? Erano su eBay, su eBay. Ma cosa già? Ah, trovo 2001. L'altro. E io credo che avevo la mano. Quindi a Roberto l'antenna di Giovattino. Tutte le mani prendono bene. E la troveremo un giorno. Quando adesso si calmano le acque ci voglio salire e mi fa vedere un po' tutto l'amico Natalino. Dimmi cosa è collegato dalla Sasseria. Sì, è stato collegato un bel po'. Nepal, cos'era quel negro Natalino? Di dove era? Cerchiana. Figurati. Questo negro c'era anche lì ma c'aveva il sito, siamo andati a vedere, c'era questa casa enorme, con due computer dentro, attrezzature varie, e un avviso, deve essere qualche pugile. In Ghana? Sì. Ghana deve essere anche uno che va in Aghis, lo fa chiedere, sono tutti poverini, in Ghana sono tra il suo mondo, poverini. Sì, quello lì c'ha... Ci sei fuso orario, però magari da tu colleghi qua alle 10 del mattino ti dicono mezzanotte. Una serata di Ucraina, la Russia, cos'è che non ha collegato? La Nuova Zelanda. Gianni, a proposito, su una rivista che mi hanno dato, non mi ricordo, Radio Kit, una cosa del genere, ci sono due uguali identici ai miei e sembra che stanno vendendo o 25 o 30 euro tutti e due. Ma guardatici a quale? Portatili sto parlando. Nelle istruzioni di una rivista sono di amatori, c'è tutto l'indirizzo, eccetera, eccetera, telefono, c'è anche l'indirizzo di posta elettronica, c'è un sacco di roba da vendere, tra cui questi Intec 50S. Li ho già presi, c'è per noi che per manazzolano il conino. E vabbè, 40 euro li ho pagati, ci sono tipo. Ma da questo tipo che ti sto dicendo io? No, sei bene. Sui bene. A proposito di me, lo sai, stavo cercando l'altro giorno una cosa, sono entrato, c'è un altro eBay, però francese, cacchio, ci sono dei pezzi allucinati, sono entrato guardando così altre cose e sono andato a finire su questo eBay francese, c'ha un nome, adesso non mi ricordo come si chiama, tipo risparmio in francese, una parola del genere, e c'era roba di coso, di microfoni, baracchini, accordatori d'antenna, eccetera, eccetera, ma a prezzi assurdi. Ma come li paghi pure? No, come coso? Pagamento come me, la stessa cosa. Anche con questo qui? Vale, questo non te lo so dire, però c'erano il bonifico bancario, c'era la carta di credito, quello è meglio non usarne mai. C'erano un sacco di... però i prezzi erano veramente vantaggiosi. Ma come si finiti Non lo so se c'erano trasporto o cosa del genere, penso. Era qua, è identico a eBay, è la copiatura di eBay, la stessa pagina, poi c'è scritto le offerte, quante offerte ci sono, è uguale a eBay però in francese, e c'è un altro nome, io pensavo fosse eBay Francia, invece si chiama un'altra cosa, e presi c'erano degli apparecchi, vedete, stavo guardando, c'era questo della ZAG, la KP1000, c'era un prezzo, mi pare, 15 euro, un prezzo assurdo. Non l'ho mai visto, ma sono due che fammi sapere. Sì, infatti adesso me l'ho messo in memoria, lo devo ricontrollare, solo che francese non ne comprendo nulla e... Comunque faccio vedere anche il catalogo del 2006 della Intec. Dai tu. Sì, mi sono arrivati di 2022. Dimmi, ma c'è questo 497 che c'ho io? No, non l'ho visto. Ho detto che l'ho telefonato a Ruzzippo. Cosa ti ha detto? Prima al telefono mi risponde, io ho detto, pronto, sto cercando questo signore che ha venduto questo oggetto su internet, su eBay, e mi risponde questa tipa, mi fa, no, guardi che lì ha sbagliato un numero, questa è la provincia di non so che cosa. E ho detto, no, guardi che questo numero, da questo numero mi avete chiamato, allora aspetta un attimo che provo un po' a chiedere, dopo un po' si sente chiamare questo tipo, qualcuno di voi ha fatto qualcosa finta, allora ha risposto questo tipo. Da giudizio già. E non cosa ti ha detto? Ha fatto, guardi, io ho ricevuto l'oggetto, ci sono questi problemi qua, diciamo, c'è la lucetta che non funziona, l'apparecchio non esce in FM, c'aveva questo tastino, vabbè, tastino non era niente, era una vesseria, nel trasporto c'è sceso dentro, l'ho rimesso io a posto, non ci sono stati problemi. Detto, comunque, quando l'avevate fatto descritto nell'istruzione, dice un apparecchio nuovo, perfetto, eccetera, eccetera, mentre non era così la realtà, era un po' trattato male. Ma mi scusi, l'apparecchio era nel coso, un anno e mezzo fermo, era tenuto dentro uno sgabuzzino, forse è lì che si è sporcato, comunque se vuole gli restituisco i soldi, me lo spedisco indietro e gli restituisco i soldi, no, lasci stare. Detto, comunque il feedback non ve lo do positivo, le dico, come si chiama? Prima ve l'ho altamente negativo, adesso ve lo do neutro, per non sbagliare, perché non sono soddisfatto al 100%, punteggio gli ho detto da 0 a 10 vi do 6, massimo 7 di punteggio. però l'apparecchio per il resto mi compiace, diciamo, sono soddisfatto. Lui, va bene, grazie. Si dice Dugusino. Mi ha mandato l'email subito il figlio dicendogli di correggerlo, se gli faccio il favore, cioè avevo pienamente ragione di tutto quello che gli avevo scritto, eccetera, eccetera. Ha detto, ma come ti vai a dire che è nuovo un apparecchio? Ma sai quanto l'ha pagato già? Eh? La cifra, quanto può costare quell'apparecchio? 200 euro. 200, ma ti pagate 200 euro? Ah, non costare più un apparecchio così, boh. Per lo meno 260, 220 può essere, non lo so. Costa 180 l'anno 48 già, scontato lo stanno dando 180 euro, 600 euro ha pagato, mi sa fare. Ma cosa, mi ha parecchio di altro tempo quello lì. Sta dicendo che è nuovo, da altri tempi, ci avrà un paio d'anni di vita con l'apparecchio. Ma io mi sa che ce ne sono un bel lì, gli hanno venduto a 200 euro, però con modifiche di canali, con la modifica del latte, tutto quanto, c'era tutto, per 200 euro ce n'era uno. Stavo per prendere io, lui mi ha sviato in Galaxy e poi è successo quello che è successo, vabbè, noi non pensarci. E allora riuscì a ridurre, in più ci aveva praticamente amplificato di watt, mi pare che ci va con 15 watt in anno e con 20 vanno a laterale. E poi ci aveva i canali 400 cari. L'ho visto anche io quello lì, però è un altro modello molto più vecchio di questo che sto dicendo io, diverso. E questo che ho io, ho scaricato da internet, c'è tutta la modifica per fare l'elaborazione di cosa, ma non me ne ha fatti nulla, cosa me ne frega a me a modificarmi il baracchino, ed è una fesseria, però ci vogliono degli strumenti per farla perfetta, perché vuole riallineato, c'è da fare un ponticello, c'è tutto spiegato, l'ho scaricato da internet, però non faccio niente, non me ne ha fatti nulla. A quel punto se vuoi più potenza ti attacchi un lineare, cosa mi muovo a toccare un baracchino, per avere poi sui canali, cosa me ne faccio? Se lo vuoi fare te lo fa Massimiliano senza problemi. No già, non me ne frega niente, io sono contrario a toccare gli apparati. Questo è nuovo nel senso non è toccato, io l'ho aperto, non c'è un grafo, non c'è niente. L'unica cosa è questa lampadina che me la sono comprata, ce le avevano da fusaro, ce le avevano verdi e rosse e gialle, però azzurrine non le avevano, neanche la GBC aveva la giubiliata bianca e bu. Ma ci sono i cappuccini, perché non mi chiedono mica. No, cappuccetti non ne aveva azzurri, ce ne aveva di altri colori, poi alla fine, quando c'ho tempo me la metto la lampadina in sta piccolina. No, ho detto qui cappuccetto e basta. Sì, ma azzurro non ne ho provato cappuccetto. E dico, quando la prossima volta, perché se ci arriva, mi compri il cappuccetto azzurro e muovo, ogni volta ci vola. No, azzurro è molto più carino, più bello, ma anche bianco non dispiace, l'hai visto, è quel bianco panna, non è brutto. Sì, è troppo semplice, troppo... Ce l'hanno verdi? Ce ne hanno verdi, gialle e rosse. Lì mi raccontavo di me, già. Stava a temperatura natalina, che allucinante, cazzo. A temperatura alla fine frequenza, dopo tutto quanto. Bella la zetta. Quello Tektronix c'hai sulla natalina. Stavo leggendo, mi sono più di ho letto della Tektronix, non sai quanti dipendenti c'ha con la fabbrica? No. Cioè io la Tektronix la conosco per strumenti oscilloscopi, analizzatori spettro, c'ha 20.000 dipendenti, è una cosa allucinante, a livello di Philips come dipendenti. Sì, ma quello dell'entro come costruito, io l'ho aperto, l'ho fatto e so come è fatto quello lì. Se tu lo vedi dentro ti sta rente, non è come un solito accordatore come li vedi, viste, questo sta la sintonia per ogni banda, capito? È un'altra cosa, là. Guarda, io non lo conosco fisicamente, ne ho solo sentito parlare, ma qual è, cosa c'è anche l'indicazione digitale dell'accordatura? Cioè c'è un display o solo lo strumento c'è? No, lo strumento è incrociato, c'è. Però se tu non lo metti in sintonia, non accorda manco si fa male. Una cosa perfetta al millesimo, poi c'è anche il carico fittizio, figurati. Gaffa. No, io ne ho visto uno della Tektronix, però forse qualche apparecchio, chissà, tanto grossa, con l'indicazione, c'è il display, ci stanno i liquidi e ti dà anche i valori del coso, dell'ohm, del carico, delle stazionarie, eccetera, tutto digitale, e più c'ha doppio strumento incrociato sul lato sinistro. Sì, ma quello che usi devi fare in testa, non puoi usare quello digitale, devi usare per forza quello ad aghi incrociato, capito? Per ogni frequenza c'è la sua sintonia, se tu non lo sintonizzi lì, non accorda. E poi non è come un accordatore normale, quello per la lunga per accorciare veramente l'antenna. Non è come gli altri accordatori che accordano e ti impediscono di bruciare l'apparecchio, però non ti fa uscire di potenza. Se la potenza della quasi più tutta, E poi ce l'ha visto Gianni come funziona, figuro cazzati. Perché? Perché accorda in quella banda, praticamente lui si accorcia si allunga l'antenna, praticamente, fisicamente proprio se te la allunga. Quindi tu quando sei accordato lì sei accogliato al rio. Matarino, ho detto se è manuale o automatico? Manuale, automatici non servono. Io penso che sono automatico e non lo uso mai. No, questo che sto dicendo io della Tektronix è automatico, 9 secondi ci impiega a fare una accordatura. Sì, però da noi. Noi si mette di lì. No, questa è un'altra cosa. Un'altra mia estera è. Se ti dici 600 watt, 600 watt. Se ti dici 610 watt, 610 watt, non venuto ad arrivare. Se ti sto dicendo che all'interno c'ha anche il carico fittizio, io l'ho provato. Ho detto che avevo costruito il carico fittizio, Natale. Vabbè, ma il carico fittizio lo puoi costruire per pochi watt. Basta mettere delle resistenze e lo fa il carico fittizio. Serve per avere l'impedenza dell'antenna. Quello che vuole far tutto fare, no? Così non mi va a pochi watt, sennò calci ecco già male. No, quello che ho io fa 1000 watt, lo sai come l'ho costruito? Ce l'ho da un sacco di anni, ho preso un barattolo di vernice e ho fatto il calibrato delle resistenze a 52 ohm, ho riempito di olio e messo il connettore sul tappo, chiuso ermeticamente tutto sigillato, sino a 1000 watt tiene. Ah, bagno d'olio, già lo guida allora, vabbè. Sì, ma ti sto dicendo il micidiale, abbiamo fatto le prove delle stazionarie, zero, c'è proprio uno, ti segna, proprio una cosa micidiale. Perché è fatto a bagno d'olio, perché l'olio non le fa scaldare, capito? Beh, sino a 1000 watt, e ti sto dicendo è bellissimo, cioè bellissimo, artigianale però è perfetto, funziona, avevo preso un progetto, ho messo tutte in serie le resistenze grosse, ci vuole una resistenza un po' grosse, robuste, messo a bagno d'olio, attaccate nel, ce l'ho ancora, mi conservato, non lo uso più, però quando facevamo le prove con gli apparati per non uscire l'antenna utilizzavo quello quando dovevi calibrare eccetera eccetera. Beh, è logico, perché per fare le prove l'antenna non si usa, capito? Perché almeno sei sicuro che sono 50 ohm. Gaffa. Comunque ho fatto la prova io col wattmetro dell'Intec. Con la multimanda esco meno di 3 watt e mezzo, con la manda va 4 watt perfetti. Beh, è logico, ma secondo l'antenna che è, giustamente, si ruba un po' di potenza se non è perfettamente allineata l'antenna, capito? Caffa, perché la manda va su tutta la banda, c'ha 1,2, anche meno di 1,2 di stazionarie, mentre con la multibanda nel canale 1 per dire c'ha 1,3 di stazionarie, ti sposti sul 30 e c'ha 1,6 di stazionarie, cambia parecchio, ti fa perdere un po' di potenza. Ma per forza la multibanda, quella che è tu, è un compromesso, capito là, perché fa tante frequenze. Invece la Mantova è solo per quella frequenza, capito? Cavallo no, va più che bene. Niente da dire. Però con la multibanda non mi posso lamentare perché funziona bene in ricezione, ho fatto delle prove su diverse frequenze e funziona più che bene. Sì, perché una multibanda è fatta per la ricezione più che altro. Capito là? È un compromesso l'antenna. E allora è logico che si comporta così. Se fosse riuscita bene con quella multibanda dovresti avere un accordatore come il mio. Allora sì che te l'accorda fisicamente l'antenna. Sì, vabbè, ma relativamente perché l'antenna è piccolina, non è manco paragonabile a cosa che da rivaggio oramai, insomma. Però qualcosa di meglio potrebbe uscire. Ti sto dicendo che se tu hai un accordatore come quello che dico io, e devi uscire con lo metti sulla frequenza che sei, e si allunga o si accorcia fisicamente proprio l'antenna, ecco perché ti fa uscire tutta la potenza. capito? Invece gli altri accordatori che sono Mombanda, così, queste cose così, tutto quelli automatici, accordi quello che servizio, però non si fa, non si può uscire con la potenza di riuscire, capito là? Si impedisce di bruciare l'apparato, diciamo così, perché impedisce il ritorno di radiofrequenza, però non è un'accordatura valida, diciamo così. Dove l'hai ripreso tu una tariffa del Tektronix? Quello è americano, me l'aveva dato un amico quello lì. Ed è, guarda, un signor accordatore quello. Quello è indispensabile, vedi, quello ci vuole, perché tu puoi prendere qualsiasi tipo l'apparecchio, puoi prendere e quello, se c'è quello esci, e se no lo puoi sì. Se no gli vai un'antenna ma ogni frequenza deve avere. Capito là? Quindi quello, con quello lì teoricamente riesci anche a correggerti una manovra e a fartela irradiare su altre bande. Certo che sì. E quello è importante. Perché io ho già fatto le prove e la manovra turbo che ho io va su tutte le frequenze con quella correttore. E cosa già provata e quindi non è che ci stiamo cavolate. Molto grande e pesante come accordatore. Sì, sarà grande quanto il 140, va. No, dico, di peso, molto pesante o mio 230? No, è pesante, il suo è, se lo presento ti fa vento. Lo prende già? È bello, è bello. Agli anni che si bruciano. È molto bello come accordatore. E tutta la persona, Nathalie, mi è piaciuta, squisita, lavorando all'apparecchio. Quella persona che si profitta lavorando all'apparecchio, ha molta professionalità. Quello fa lavorare, perché fa lavorare. E poi, sono di cose, ma così, ma se tu sai che la cosa che ho imparato io, va. Ragazzi, prima non sapevo, molta cosa io non la sapevo e me l'ha fatto vedere lui. Ma è amico mio pure, cosa, Natali? Come? È l'amico mio, stai parlando, il figlio di quella persona. Quello, cazzo, se lo vedi parlando in inglese si sta bene. Perché intanto si collegano tutti in inglese della gente lì. Cosa mi ha che ci ha perso a parlare l'inglese? Ebbene pure non parla roba. Io l'ho visto facendo tanti collegamenti con la roba della rampa, con la roba del culo. È molto bravo. Avete parlato in due. Adesso, se non sai l'inglese, non puoi fare quei collegamenti, capito? No, e non puoi fare neanche quell'ubi. Un cosa va bene, devo l'italiano. No, l'inglese è molto meglio, io qualcosina d'inglese e qualche parolina riesco a tirarla fuori, ma di francese è vero assoluto, lo spagnolo un po' si capisce, riesce a dire qualcosa, ma anche lì non è che si fa parlare, no, almeno l'inglese qualcosa a scuola l'ho studiato. Ma intanto se non sai l'inglese non puoi fare nulla, perché intanto di qualsiasi paese sia si collega all'inglese, per forza. Quello sì è vero, la lingua internazionale, la lingua di tutti. Se tu non capisci l'inglese non puoi fare quell'hobby a lui così. Perché allora dovresti parlare solo con gli italiani, oppure se sei lo spagnolo solo gli spagnoli. E poi non ti collegano neanche perché la chiamata si fa in inglese, capito? Quello si risponde in inglese anche se è spagnolo. Poi se volete parlare la vostra lingua, parlate la vostra lingua, diciamo così. Io intanto per chiamare, per rispondere si usa l'inglese. Gaffa, riprendi tu già. È così pure come sono salito. È tutto a base di inglese. Io pensavo che facesse solo chiamata, ma poi l'ho sentito parlando tranquillamente. A tutto che si brucia. Vabbè, è logico, no? Le cose essenziali almeno devi sapere, se no non qualche parola devi saper dire, devi saper fare un certo discorso, se no non puoi fare quei collegamenti lì. Rispondono subito o deve fare tentativi, Natalia? Tutta la computer c'è scritto. Quando fa la chiamata in generale o cerca di entrare denominativo della persona? No, lui fa la chiamata e lo risponde, no? Eppure si sta parlando uno, lo chiama e io dovrò entrare. Devi dire, ma si chiama, si può dare la brinda. computer. Il computer ti dice che frequenza devi andare, tu prendi quanto la frequenza e chiami e ti rispondo. Ah, così, non è che chiami tipo come facciamo noi, ma sul 10, se c'è gente chiami e dici prova avanti sul 10 o dice sul 10 eccetera eccetera, e lì ti vai direttamente sulla frequenza. Non vai in tutte le bande che vuoi tu, poi al limite il computer è un aiuto, ti serve un paese, tu lo cerchi, se ci sono nel computer vai lì in quella frequenza e chiami e ti vegli, ti rispondi. Con quanto stavate uscendo, cioè con quanto stavo uscendo questo? E 200, la potenza dell'apparecchio. Bastano. E bastano sì, e rimborsi. Ma tu stavi uscendo con il polo o con cosa? O direttiva? Con il polo. Direttiva non le utilizzi, no, Natali? No, mi sento per farmela la direttiva, per cosa mi servivano quei piccoli, ma già la busco la linea, ragazzi, già se ne era rosso, una direttiva. Tanto è per una banda solo che mi serve, perché per le altre vanno bene, va bene quella che so, io non ne ho bisogno di antenna, con quell'antenna che ho costruito io ho tutte le antenne e parlo da tre tutte, praticamente, capito? Ma una cosa ti occorre, un barile di alluminio per te? Sì, per costruirmi un'antenna per 10 metri, per quelli che sono, che parlano in 10 metri, perché con quella lì almeno gliela punti e via. Perché 10 metri se non è la direttiva, sì, si arrivano già i colleghi, però per essere sicuro con la direttiva gliela punti proprio e li senti bene, capito? Gappa gappa, ma non hai provato a modificare, cioè a utilizzare antenne di altre bande, magari adattarle? Sì, ma io ho fatto tantissime prove, ne ho uno, c'è un dipolo per esempio che l'ho fatto a doppia onda per i 15 metri. Quello lì lo dobbiamo piazzare con quella persona, almeno quando ci sono gli americani in 15 metri lui si diverte, capisci? Gaffa, gaffa. Perché c'ha un bel guadagno con il polo, mi già l'ho visto Gianni, ce l'ho legato alla stiglia, pronto a piazzare, ma giù va e abbassa i garruccoli e a piazzarsi, gli ha piazzato la giura. Gaffa, gaffa, è un bel lavoro, specialmente quello scaletto mi è piaciuto molto. Perché mi dovrei posizionare da lui, sempre non è ancora più fuori che decide. Ma ci vuole un palo lungo almeno, guarda così, 15 metri, a piazza alla vera. E da voi venivo a freddo di 15 metri, se voglio per farli da 15 metri per farla, per piazzarla proprio come deve essere piazzata. Ma funziona bene anche così, mi. No, il traliccio lo so, ve lo offrire, Natali. No, il traliccio mi serve per le direttive, capisci? Hai visto dove c'è quello executive, quello che c'è a Pedarietta? Ehi. Hai visto quel traliccio? Ehi, vabbè, sì. Quello di lusso, quello sarà, farò manco 18 metri, bellissimo, permesso a regola d'arte, per montare delle antenne da drilli, quindi. Ma loro sono i punti rari, ora si farà. Ma che necessità c'è di mettere un'antenna così in alto? Non riesco a capire, visto che c'hai i punti. Ma serve per il ponte radio quell'antenna, anche se il ponte ce l'hanno lì loro. E magari c'hanno il trasferimento da qualche altra parte perché loro devono parlare a lunga distanza. Se tu non hai punti in quelle frequenze non fai nulla, già non che anche io lo intendi. Ha pagato, però veramente ha fatto bene. Così quello che hanno messo al promotore della capitaneria, quando è un mesetto e mezzo fa l'hanno messo, se lo male della lì ci hanno piazzato, e ci riate. Ma la capitaneria ha bisogno di dire bene per forza, capito? Perché ci sono frequenze di emergenza, questo e quell'altro, hanno parecchie frequenze, quindi devono avere le antenne come si deve, hai capito? Gaffa gaffa, veramente è un bel lavoro, ho fatto un messo un traliccio micidiale, veneciato di bianco e di rosso, si vede da lontano. Lo so. Adesso mi devo costruire una Windom, devo comprare il Balum, che mi ha consigliato invece di farlo io a comprarlo di là, 4-1, e me la faccio per 160 metri. Così c'è tutte le frequenze, praticamente. Se no ti fai un ponte di trasferimento da Marco su, scatta giù visto che sudeva l'antenna, è allucinante. Però quella scaletta che ho io non ce l'ha, e poi è fatta come ce l'ho io. Quella è multibanda a video. ma mi sarà sempre mai giubilato, perché devi prendere le misure tra un tubicino e l'altro, e certo. Ma non sai quanto servizio ne fa, tutta la solo quella lì, l'antenna. Ma cosa vuol dire la scaletta? Ma la scaletta per far cosa? Si chiama scaletta, però no, perché sembra una scaletta, no? Solo che sono dei distanziatori per due cavi, capito? Per non toccare. Un sistema di coso, di conduzione, dei cavi, cosa lo usi? E questa antenna, ma devi vedere com'è. E da voi da qui, cosa fate con un pezzo di giri? E già ci devo venire, devo trovare il momento opportuno, ci sta da vedere. E già mi dà la vista com'è. Poi ho fatto anche il palo ribaltabile, telescopico ribaltabile. Senza contare che si sale da sola senza toccare neanche il palo, sale e scende da sola. Perché ho già fatto quel sistema carruccole, capito? No, sto parlando al discorso di Marco, c'ha un'antenna così con la IAGI micidiale, enorme, non l'avevo mai visto qua montate, solo su fotografia le avevo visto, ma è allucinante. Ma quella è solo per i 10 metri, infatti io volevo farla così, per i 10 metri. Micidiale, ma quante antenne c'aveva almeno, io penso una decina di antenne, se non di più. Un bel po', se devo fare una come quella di Marco, quella centrale che ha, devo fare quella lì, e quella è la bomba, a quanto mi hanno detto, ma dovrò provarla, io la faccio così via. Naturalmente, cioè, forse più grande di quella c'è quella di Valle Caprera, quella direttiva come grandezza, quella di Valle Caprera, ma su che bande lavorano quelle lì, quelle così grosse? Sulle bande che lavora quella scaletta che ho io. Valle Caprera, va bene, ha una sola, manco ne avrà 10, 15 antenne, però quella di Valle Caprera a livello di dimensioni è la più grossa che c'è qua in zona, che ho visto a Sassa. Quella è piccola, devi vedere quando serve la cubica. Quella di Valle Caprera sta dicendo? Serve la cubica quella, favolosa. O poi c'era anche quello di Coso, c'era Colangius, quello di, come si chiama, di via, niente, via Napoli, quello io penso, c'era una bella antenna, adesso ne sta smantellando tutto, ho visto, ce n'è una sola. E a tanti antenne so, di aveva ragione, lui si usa di soli e c'è lo stesso, capito? E qui c'è lo stesso con i di soli, ma venuta di là, capito? A parlare si fa lo stesso, non c'è nulla a fare. Quelle antenne, quando lì si sono appassionati di 10, forse sono accaniti, che vogliono arrivare sordi, e oltre la 10 giustamente stanno in va, capisco perché si vogliono un bel di va. Però io ho dimostrato che senza né lineare, né direttive, non capisco, si può far ridare una stessa. E capo, infatti che conta l'antenna? Se c'è un'antenna, se c'è un'altra resa, che ne ha tutti dei watt. Ed è tanto, riguardando c'è l'antenna, praticamente la potenza. E le direttive non so perché cosa servono. E quando uno arriva a basso, capisco, allora si la punti, no? E gli altri segnale, fa quelle così, sono silenziose, non senti rumore, capisco là. Quello è per gente che si assoldi. Quella lì a momenti sta uscendo basso basso, cosa è successo? Un urlaio sta uscendo con quell'apparecchietto del cavolo, magari non ha sentito bene. Sto per dire sei molto basso in questo momento. Ma di radio? No, di segnale. E sembra normale. Tu, sei attaccato qua alla stazione. Chi mi conferma Gianni, o sbaglio? Gianni? Adesso sta uscendo bene, poco fa si è abbassato per pochi secondi. Sì, c'era qualche falso contatto, ma un sezzone. Anche un sezzone, un bel lungo, mi sembra, guarda, un fattore acqua. Gaffa, gaffa. Mutatori dove si possono trovare a buon prezzo, qua a Sassari? CBC, Fusaro, Melchioni. E devo trovare il sistema di studiarlo bene, adesso che è molto, se sollevo la mantova, devo fare tre calate. Così ho già tutto pronto, non devo stare ogni volta a cavare la roba, a smontare. Voglio studiare un coso, però voglio fare tre ingressi e due uscite. Come tre ingressi e due uscite? Il commutatore si fa una sola. Capito? Questa è un'entrata quanto esiste. No, io voglio portarle giù tre cavi d'antenna. E con questi tre cavi d'antenna commutarli su due apparecchi diversi. Ma non lo posso fare. Ho non si può fare. No. No, non esistono, cioè dovresti mettere un doppio commutatore, ce ne dovresti mettere due. Esatto. Adesso lo dico io, bisogna vedere com'è la situazione e vediamo un po'. Sembra strano che non li vendano in commercio, cioè che ci abbia tre o quattro ingressi, diciamo, calati nell'antenna e poi da lì voglio servire tre baracchini di ingressi, non si può fare. No, perché o usi un'antenna e tre uscite per tre baracchini, allora si può fare, lo metti la rovista, no? Ah, già al contrario sta dicendo. E via, quindi un'antenna l'altro, ma per così, vuoi servire tre baracchini, metti dove c'è un filo e quindi la mantova e poi dall'altra parte ce ne sono tre, no? E il punto lì ha fatto in quei tre praticamente, come ci hanno visto, no? Sì, sì, ho capito, però mi sembra strano. Io ho un catalogo della ZG, non è chiaro a cosa serva, però sembrerebbe che sia quella cosa che sto cercando io, che ci abbia tre calate di antenna, posso attaccarci per dire tre antenne diverse, e poi c'ha tre uscite da attaccare gli apparecchi. No, cioè un'antenna e tre uscite, ovvero tre antenne e un'uscita. Capito? Ho quattro antenne, ci sono anche a quattro, un barista di Reggio Saggira a quattro, quattro e uno, anzi no, sì, quattro e uno. Ma questo che ho visto della ZG, su ogni antenna dietro, per dire da dove è la parte posteriore dell'apparecchio, del commutatore, dietro dove scendono le antenne, c'ha per ogni antenna un interruttore e poi davanti c'è un interruttore che ti commuta, per dire, voglio attaccare l'antenna numero 1 sul baracchino numero 2 o viceversa, ci sono altri interruttori. Però non è roba figa, no? Conviene accendere quelli con la ruota, quello con potenziometro, no? Quindi un bel commutatore coassiale, se no si provocano stazionari e baleari. Conviene comprare roba seria, i commutatori non si usano, se si batte in faccia a contatto e parti da parecchio. Però siccome è vero, bisogna prendere roba di qualità, ma questi ZG non sono buoni per te. Sono una cavolata. Economici sono. Sì, e non si viene a nulla tu. Secondo dove li usi, quale frequenza li usi, non servono tutti a niente. Raggio, dai, ma cosa si usano gli iscritti? Sì, come è stato di buono di bicchiere, sono qui un ZG, ma si va, fanno tutto. Tutta la roba ZG non serve a niente. Vabbè, sono cose economiche, a fare prezzo, diciamo, non puoi pretendere il coso, la roba di qualità ce la vuoi mettere in bagaglio. Infatti, ma per antenne non si scherza, quindi è meglio mettere roba di qualità, capito? Per antenne no, devi lesinare. Gaffa, gaffa. Vediamo se Gianni si è addormentato. Gianni, ci sei? Gianni ha dato l'ultimo colpo di cosa, questo subito. A vedere se c'è Mario o Luca, chi c'è? Cani, sei detto la salita? Ah, ero lanciata, quanto sembra. Drumi di riso. Molto probabilmente Gianni non doveva andare neanche a lavorare, ma dove sei? Gli è calata la salta, draghi, da stanco forse. Lei dice ha giocato con i bambini, si è stancato, era mezzo drumito, infatti stava addormentando. E va bene. Casa Maggio Villa Buonacento, quindi antenna a stalla, che tu manco te l'immagini. Quando gli ho costruito la sua, all'amico suo, eravamo in due, avevamo fatto in un lampo a stalla. Tu cosa stai utilizzando? L'RG58 o il 213 per i dipoli? Per il dipoli, il 213. Se usi il 58, molta differenza, non c'è? Ah, no, sulle HF non ce n'è bisogno, l'ho messo per i tasti, capito? Perché sennò il 58 andava bene, capito, per il dipoli. Però se uno lo deve usare a livello professionale meglio che usi un buono, capito? Infatti per l'isolamento il 213 è molto più robusto come sconso, come tenuta, dai, rispetto all'RG58 la copertura, l'isolamento è quasi zero. Poi quello che tu è morbido, l'RG213, quella che sento questo io è una bomba. Oh, non ho usato più tanto mi per la scaletta perché si attacca sotto, non sopra. Oh, ma la caccia è entro a Sassari, dove si può trovare? Ho preso il GBC, prima non sapeva manco cosa era. Scusa, nonna, mi dà la chiedere, grazie, mi devono dare la risposta. Quanto si paga il prezzo normale senza essere scontato? La caccia entro, quanto costa? Ma mi sento, erano 230 che lo stavo dando a 1,20 penso. Prova a chiedere a Melchioni, che il 230 se la vera lo stava dando a quel telefonino. Perché se no 1,60 lo sentisco e costa, quel cavo costa maledizione. Scusate, 1,50 lo dava e 213 però lo sta aspettando. No, la caccetto, quanto si paga? Perché l'ho chiesto alla GBC, dice no, non ne abbiamo mai avuto. Vai da Mercione, gli chiedi 213, che già e lo sta valando a 1,20, è il più basso che c'è, perché lo sta valando a 1,60 o 1,50 e insomma. A 1,20 si può prendere. Sì, 1,20 è un ottimo prezzo, se Fusaro ha detto prezzo ti faccio lo sconto, te lo do 1,50 a te, metto Antonello. Se mi stai dicendo 1,20, perché 213 ce ne sono di due tipi, se sia quello buono. La Fusaro non è bigliato assolutamente, anche una volta me l'ha dato, ed era una cagata, quel cavo era una cagata, guarda. Quel 213 si era grampato. Io l'avevo comprato tanti anni fa, la GBC 213, se lo vedi, quel dipolo che c'è, te lo faccio vedere, quello ci sarà stato fuori all'aria 10 anni, è ancora lungo, perfetto. Ma da Fusaro non è bigliato lo conoscete. Magari il 203 serve a questo isolamento del cavolo, era più fino del coso, dell'NG58, era grosso come cavo ma isolamento non aveva. Bisogna vedere quello lì infatti, la quantità di rame che c'è dentro. Così per il 58 me ne ha fatto vedere due tipi, GBC1 che faceva ridire, la calza sembrava un coso, la giù mai non mi così via, e mentre l'altro era bella steccia. Infatti, oltre alla quantità di rame devi guardare l'isolamento nero, quello di Furia, vedere quanto ne ha, quanto è spesso. Ma oggi non lo stivi, dieci nubino, mi stesso un disegno. Il Fusaro a livello di cavi di antenna TV che ha le FMT che sono buoni, i cavi, niente da dire, qualitativamente la copertura isolamento erano molto molto buoni, non solo adesso il 213 non l'ho mai preso da lui. No, che era una cagata, l'ho preso io una volta, ma Gesù Cristo mio, Dio se ne canti liberi. Ha fatto vedere la GBC un cavo, però ne aveva solo, no, non Fusaro, una spessore era micidiale, non so come 213, però pesava un quarto, meno della metà di coso di peso. Sembrava quando confronti un pezzo di ferro, una barra di ferro con una barra d'alluminio, la stessa cosa, era micidiale. Quello dovrebbe essere la cassente. Ma così che leggero leggero, proprio il cavo non pesa niente, sembra riempito di aria dentro. E quello lì è buono. Però non è Fusaro, non ha. L'ho preso dalla cavera vetrina con l'espositore, ci sono tutti i cavi, non so se l'hai visto, tutte le ispezioni per capire le misure eccetera eccetera, me ne ha fatto vedere un pezzo e ha detto questo cavo, questo è il migliore che c'è, allora hai visto la caccetta? È un livello di igiene, però sono sempre un po' rigidi i cavi, morbidi non mi risolve. Un po' rigido è, però il mio già è morbido quello che c'ho io. Perché te lo faccio vedere quello che è attaccato alla scaletta e vedrai che mi riprende. Comunque per fare il dipolo una quindicina di metri di 213 ce l'ho io. Ma per fare il dipolo mica devi usare il 213, 213 lo puoi usare solo per la calata. No, per fare il coso non conviene. Ma matto sia a fare il dipolo 213. Filo elettrico ci vuole. Se invece mi hanno detto un sistema che come concezione è micidiale e dice che funziona parecchio. Qui devi andare a cagare, a chi se l'ha detto. Perché? Il 113 non è 152 ohm, fai due pezzi da 2,75 più fai la calata in mezzo. Asco, lascia perdere. Tu vieni qui, vedi, il diploma come è fatto e dobbiamo mi riferire. Gaffa, gaffa. Addirittura ne ho fatto uno a Franco, ne ho fatto a un'esercita normale e va tutte le bande. Cosa sto dicendo io a un'esercita infatti? Ma quello che ho io va bello. Quello che ha fatto a Franco, me, tutte le bande, ma chi è a Franco? Gliel'ho fatto io, quel di Polo. Ma sempre 2,75 con la misura di utilizzo o con altre misure? No, cosa 2,75? 2,75 è la frequenza di qua. Dico per la 27, dici che misure utilizzi per avere un appoggio che renda più o meno tutte le bande. Tutte le bande devi fare un dipolo multibanda, non devi fare un dipolo normale. Capito? Secondo che banda io utilizzi la misura sua, capito, dalla banda che... Sì, appunto dico, ma se devi lavorare su frequenze diverse, che misura devi trovare un compromesso, che cosa ti utilizzi lì? Il braccio da quanto lo fai? Ci sono misure prestabilite, no? Che poi va le misure che vuoi tu, no? Infatti il dipolo perché è molto ingombrante, perché è un bel lungo. Sì, sì, conosco, ma amico, dipende da cosa, da che frequenza lo usi. Nella 27 lo puoi fare da 5,50. Non so, tu se dici che la puoi far lavorare su altre frequenze, come fai? Un compromesso devi trovare. Ah no, questo è un dipolo costruito proprio per andare su tutte le frequenze di mio. Andiamo a fare da vedere, vediamo un pochettino di cosa si tratta. E tu utilizzi il cavo unico, il cavo singolo. Ehi. Oh, cazzo, così dai disturbi, non ti crei problemi, no? Perché vedere, tu sei in zona che non hai problemi di disturbi agli altri adiacenti, diciamo. Però se lo fai qua dove sono io, niente di tutto, non si vede più nulla dalla televisione. Ah, sei in sei. E Franco chi? Dovrebbe disturbare il palazzo, perché non disturba Franco allora? Non lo so, bisogna vedere, cazzo, se mai entri in qualche antenna TV, così è tutto aperto, stai utilizzando una massa radiante molto ma molto più ampia di un'antenna verticale. Ti ho detto che non è come dici tu. Franco, addirittura il sistema TV gliel'ho messo a posto io, perché Franco tu metti chi c'ha il microfono per via DVI con l'antenna normale della 27. Io stavo a tutti i televisori del palazzo che addirittura è centralizzato visto il resto, l'impianto. Gliel'ho messo a posto io. E non disturbava più quando aveva piazzato l'antenna nuova sua della 27, l'abbiamo piazzato anche quel di Polo lì ed è una bomba. Ho utilizzato lo stesso palo della Mantova, Franco. E allora sotto la Mantova a me. E dove l'altro braccio dove l'ha attaccato? No, il centrale deve andare sotto l'antenna. Ah, quindi lo ha difeso, no? Pensavo lo facesse partire dal palo della Mantova all'altro lato, da un'altra parte. È un'invertita, non te l'ho detto che è un'invertita quello che sta fra. Già te lo faccio vedere come l'ha piazzato, non ti preoccupare. Io voglio predisporre la mia, ci metto con la carucolina così quando sarà, se si deve fare, c'è già tutto pronto. E il moschettone è basso. Sì, sì, no, vabbè, io ho preso due di quelle carucoline in teflon e le metto su, in modo, come abbiamo detto l'altra volta, fai tipo la bandiera, in modo che quando sarà, se si deve fare qualcosa, è già pronto, rilascio già un cavetto pronto a utilizzare per sollevare eventualmente, però voglio vedere come vuole fatta, perché non riesco a capire come l'ha piazzata tu. Basta venire qua, come si fa? No, naturalmente bisogna avere la resa, se c'è il canto, sennò rimane tutto quello che c'è. La resa? La resa ce l'ha, evidentemente ce l'ha, la resa. Se lo usa quella stessa mai, vuol dire la resa ce l'hanno. Sì, ma io parlo su che frequenze, voi quello lì con la persona usa su altre frequenze, sulla 27 e adesso c'è la stessa resa che può avere la verticale, la stessa radiazione, non lo so. Ah, la 27 è tutto un altro discorso, se lo usare solo per la 27 non ha la stessa resa perché non hai presente che parla con i dipoli, capito? Perché la polarizzazione è diversa. Sì, il dipolo lo metti in orizzontale, quello lo so, però mettendone uno molto grande, in ricezione teoricamente dovresti avere qualcosa di buono, non è così? Se riceve, basta la multibanda che c'è tu, è inutile che piazzi il dipolo, Mi vado in risposta. No, io lo volevo provare in ricezione, no, la trasmissione non me ne ha fatti nulla, c'è la manto. No, stiamo confondendo le acque, Roberto. No, quindi no, non va bene sulla 27, non ce ne sono sistemi, dico, che funzionano meglio della manto. Sì, ti ripiace una direttiva per la 27. E dopo ti metti la manto e la vai là. Ah, mi sa che l'unica soluzione è quella di blu. No, io pensavo con un dipolo però di misure grandi, non piccolino, si potesse fare qualcosa di meglio. No, no, per ricevere la sattelle. Questo va a 27 tanti, ma non ne vale la pena, troppo già di sé. E allora non facciamo niente, raga, bibli. No, io pensavo c'erano delle possibilità, magari qualche progetto di qualcosa, blu. No, per la 27 non ne vale, va ancora la pena. A parte che secondo lo che è puntato riceve solo in quella direzione, capito? E praticamente nelle altre direzioni ricevi più basso, quindi non ne vale la pena, capito? Ok, no, io pensavo ci fosse la possibilità, mettendo magari dei filari molto lunghi, in modo da avere tutto il piano del terrazzo come studio di radiazione, invece mi stai dicendo di no tu. Ah no, se per la ricezione per questa banda qui, oh, non mi vale, va ancora bene, perché io non ti posso fare le dimostrazioni, ti posso fare e così te ne metti conto. Nulla, allora a quel punto ti fai una direttiva, ci metti un rotore, quando devi sentire un segnale debole, te lo orienti in quella direzione di lì e vedi se migliora. E almeno arrivi alla concessione che sto dicendo io, la 10 va devi, se ruba fa 10, e boh. Almeno hai capito il concetto. Nel senso, tu senti uno al Brasile, basso basso e cose, no? Allora tu prendi la punta sul Brasile l'antenna, finché non ti aumenta il segnale. Quando lo senti bene, lo chiami e lui ti risponde. Cappa, no, no, quello al principio lo sapevo, no, ma pensavo che gli poli, questi orizzontali, ci avessero una resa buona, invece mi sta dicendo esattamente il contrario, per cui a quel punto lasci la manto vai bu. Tanto a me di alte frequenze non me la futti nulla, perché non ci posso andare. Infatti, va. In previsione che tu abbia un bel ricevitore HF e un bel dipolo è sempre meglio dell'antenna verticale, diciamo così. Capito? Perché l'antenna verticale te la tenevi per qua e il dipolo per ascoltare, capito? Sì, no, vabbè, la disposizione la faccio in ogni caso, tanto non sarà un moschettone o una gallucola a rovinarmi un gozzo. Poi ho comprato un palo OAL da attaccare al palo della mantova, quando la sollevo ci metto la, a fianco, sotto ci metto la multibanda, così sull'unico palo c'ho due antenne. Te la metti sotto. Se voglio fare così, infatti, insomma, l'unica cosa è il cavo, devo trovare uno che venda a buon prezzo il cavo, così lo prendo. Sto aspettando notizie, non mi hanno ancora detto niente, vediamo un pochettino. Perché poi così che sa predisporre tutto, perché il palo non so se cosa, vabbè non l'hai visto, sono tu metti di palo telescopico di lusso. Beh, io adesso il palito lo metterò quando metterò le direttive, perché ne ho già due direttive già pronte a luglio. Ma questo traliccio cos'è? Ma si può salire di quelli, come si chiama, con la scaletta o cosa va? No, c'è il carrello che ti tira sulle antenne, capito? Ti tira su il tubo, il motore e tutto. Una specie ascensore, me. E di chi era questa roba? Ma di qualche radioamatore? Sì, di un radioamatore amico mio era. Capito? Cerca come quelli di Marco, me li hai visti quelli di Marco messo? Sì, sì. E questo se ne è disfatto, cosa non trasmette più? No, è che gli stanno facendo il tetto nuovo, metterà un dipolo multibanda lui, e ha tolto le altre antenne praticamente, vuole mettere un filare multibanda. Gaffa, gaffa. E se no basta avere qualche contatto con qualche postazione, qualche radio privata, cosa del genere, ci ce ne sono tanti di ponti in disuso, l'unico problema è trasportarli. Ma lui adesso ne fa, qualche contatto con qualche radio di casa, che ne basta? dico per te, tu, io avendo la possibilità, avendo una zona separata, cioè fuori dalla città, avrei fatto una votazione e non finiva più. Ma la cosa sta cambiando di questi gru, hai capito, le gru, quelle di coso, la torre della gru, quelle che usiamo per costruire i palazzi, così ci puoi salire sopra, puoi fare tutti gli esperimenti che ti piace. La mia già era quella già. Ma come fai? Ci vuole un camion per salirmelo, pesante, noi gli fino a fare, si usa un pito non differente, come mi fa punire un terrorista del genere. Sì, è così. Vabbè, ma quella è una cosa definitiva, quelli che hanno le grosse portazioni hanno quelle cose lì. Certo. Ma sono tutti attenti, dove possono passare i mesi, ci vuole un camion con la gru, non è lucino, e non abbiamo ventra. Ma tu c'hai problemi di movimento adesso? Allora? No, non me lo immagino neanche, vabbè, dovrò vederlo per capirci. Infatti io il tralitto che non lo devo fare, lo devo fare ribaltabile, nel senso che ne metto un pezzo prima, poi lo bullo nell'altro e si tratta rasura, rubisco, no? E la bullo mezzo lo bianco, lo faccio in due o tre sezioni, capito? Ribaltabile. Caricio bello, lo sai dove c'era? Tutto svingato con la scaletta, eccetera, eccetera, dove c'è il ponte di Mediaset a Monte Ono. Adesso c'hanno un ponte di 78 metri, il più alto di tutti è quello, più alto di quello della RAI, anche se non sembra. Ce n'era uno di 35 metri prima. L'hanno tutto smontato e l'hanno lasciato in chip in terra, non so se ci sia ancora. Il traliccio. Il traliccio. Ecco, viene la bocca di bulloneria, di cose, in acciaio inossidabile, tutti i bulloni in acciaio inossidabile. Lo sai che non trovi in nera, no? C'è una vecchia che abita sotto di lì, attaccato. Addirittura dove abita lui ci sono due parabole da 3 metri di ricezione dei programmi TV, cioè trasferimento di una televisione che avevano per più, non so di chi era, mi pare di Oristano o cosa. Infatti mi ha detto, mi vieni e tieni il biglio, ho detto, cosa me ne posso? Ma lì sta questa televisione e doveva pagare l'affitto perché lui c'ha il terreno lì. Cioè abita lì e ha lasciato questa casetta con queste antenne, tu vieni e te ne prendi, ha detto cosa me ne porto, ormai non è necessario avere quelle misure di parabole. Prima sì, magari se volevi vedere certe cose, ma ormai i satelliti si sono molto potenziati. E gli ho lasciato le parabole, se lui traisce, no? No, le parabole sono senza traliccio, sono fissate a una casetta, attaccate, ci sono dei supporti, dei pali sul muro, però vedo il canale 5 da micidiare, era 35 metri, vabbè, era componibile, si poteva fare anche più basso, tutte le scalette per lavorare, per salire, ma bello, tutto in svingato. E tanto bellissimo, un'abile. Tu ci sei mai salito tu a Monte Ono, ci vedi che tu vai a valle, il traliccio ti vuole andare in campo, 78 metri, è una cosa da paura. Ogni volta devi andare a fare i cavi, oh yeah! I cavi, no, i cavi non li chiamano, ma se vedi i cavi che c'hanno ti spaventi la misura di quei cavi. Sono raffreddati, c'hanno il climatizzatore, le condotte di climatizzazione nei cavi pure, figurati. Figurati i vatti che c'hanno. No, non ne hanno molto di vatti, c'hanno 1000 watt, non è tantissimo. Rispetto alla RAI ne hanno tantissimi di più, però non pensare che c'è meno ombra di potenza. Un kilowatt, un kilowatt. Forse per radio private stanno trasferimenti da 1500 watt, 3000 watt, che li ho visti io. Ma guarda, qua a Sassari più forti sono 500 watt, non è necessario avere grosse potenze, anche 130 watt, Radio Zero ci va con 130 watt. Ma da qui il trasferimento a Campo di Ravia, vero? Io sono salito su di un barano, ho visto questi lineari orosi. La bene in mare è una sagosa, però stiamo parlando di altre cose. Qua a Monte Oro la potenza, come si chiama, per dire Monte Carlo, la 7 c'ha 400 watt. La RAI, se ti dico con quanto esce, non fai gridi, esce con 10 watt la RAI. Coso, come si chiama, Canale 5 c'ha 1000 watt, Videolina siamo intorno ai 500 watt. Ma qua perché siamo a Monte Oro, è già vicino alla città, capito là, per il discorso. Più lontano è, più vatti devi avere per agganciare gli altri trasferimenti. Sì, sì, ma no, l'animale ha 3 kW, 5 kW, dipende da cosa. Dalla superficie che devono coprire, dal bacino, si chiama il bacino d'utenza, ma di lì se vai sotto di lì, non so se sei andato sotto il ripetitore, se tu vai accendi la radio è muto, non senti niente e non vedi niente, c'è una potenza allucinante. Ma se infatti usano il misuratore del campo lì, perché è tutto pieno di radiofrequenza, se devi andare a fare un conterradio è una cosa quasi impossibile. Occhio, ma che devi fare lì? Ci sono andato sotto, fanno paura, è una cosa allucinante, è una postazione micidiale. Guardate che sono quei terreni, è tutto di fusaro, si accende d'oro, ha tutte le postazioni, c'ha 9 postazioni in Sardegna, tutte Badi Urban, Monte, come si chiama? Monte Limbara, 7-8, forse 9, forse, non so quanto li danno al mese di affitto. Lui vive solo di quelle cose. Ricordi quando ripeteva il segnale di Tele Monte Carlo, parliamo tanti anni fa, quando all'inizio delle TV private, non so quanto li dava. Esatto. Io sono entrato pure a vedere quelle robe lì, perché dovevamo mettere della roba in 2 procedimenti. Per 2 frequenze, capito, diverse, e praticamente roba radioamatoriale, sono salito con un amico mio radioamatori. Gappa, ma lì ci sono potenze allucinanti, lì ricevono un segnale dall'isola d'Elba e lo sparavano poi agli altri, a cosa, a Monte Oro, usavano una potenza allucinante, per arrivare dalle mare a Monte Oro ci vuole potenza. Infatti, se tu sei più piccolo, a 1500. Sono cose allucinanti, sento dentro le postazioni, io ci sono entrato, ma neanche nelle cose blu, è una cosa di apparecchiature, tipo alimentatori separati, tutto, la maggior parte sono impianti valvolari, trasistorizzati su quelle potenze, non è che ce ne siano più di tanto. E infatti ci sono le vento, le vipere, la freddare, le casette. Non sono mai entrato, ci sarei voluto entrare a Monte Oro, nel ponte della RAI. Conosco gente che c'è stato, dice una cosa allucinante, la paura. Tutto aria condizionata, c'è di lì temperatura tutta stabilizzata, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità che appena stacca, pum, manca la corrente e parte subito il gruppo. È una cosa allucinante. Non è per forza, perché sennò manca il segnale. Gli unici che stanno a gruppo di continuità sono Canale 5 e Corso, la RAI. C'era un gruppo elettrogeno, una stazione di carica indipendente, canale 5, timone di mare in cabina, è una cosa allucinante, tutto autonomo, lì se ti manca la corrente funziona sempre. Poi dal tecnico lì a vedere cosa è successo, va qui. No, ma adesso non è neanche più così, adesso sono tutto collegato via computer, in digitale, tra l'altro, canale 5 è stata la prima, come sapete, dice il media, che aveva tutto già il collegamento in digitale, prima che esistesse il discorso del digitale, loro sono col computer e ti dicono, hanno collegato tutte le apparecchiature e ti dicono la temperatura d'uscita, quanti watt sta uscendo, eccetera, eccetera, le armoniche, tutto collegato al computer, c'è una stazione centrale e ogni ponte è collegato con gli altri e loro hanno vita e miracoli di qualcosa, non c'è bisogno neanche che se succede un guaio parte direttamente la riserva, c'è un altro apparato in riserva, eccetera eccetera, non rimane mai fermo con l'impianto. Infatti se succede che debba entrare in riserva vanno insieme che lì è vero, non posso, si finiscono e poi riparano quello che si è rotto, va sì. Un cliente nostro, l'officina, è quelli elettronica industriale, sono che si occupano di tutte le manutenzioni, ma sono tutti ingegneri, gente che se li sente parlare di telecomunicazioni si vuole arrivare in capo, ma gente, cacchio, super professionale, non è a livello di antenna 1 o cose del genere, sono gente, ingegneri, gente che hanno anni e anni di esperienza. Beh, sono tutti laureati in telecomunicazioni qui, non è che sono piloti qualunque. Sì, no, ma questo qua, questo cliente, se lo senti parlare, io qualcosina di telecomunicazione, insomma, quando sento parlare a quello rimango a bocca aperta, è un cranio, un esatruppo, non è neanche anziano, ci avrà, penso, 45-48 anni, ma se mi intendeva vedere, poi quando venivano con quelle macchine, tu devi vedere cosa c'è di strumentazione dentro le macchine, da paura. Insomma, senta, sì, ma sono i suoi del mestiere, quindi, vabbè, a cavolo. La gente è gente competente e attrezza capire, perché deve risolvere qualsiasi tipo di emergenza che si verifichi sul procedimento, diciamo così. E lì ci sono un giro di soldi, se ti manca per un'ora un ponte, cacchio, sono soldi che stai perdendo, poi la pubblicità, ci sono dei contratti che devi rispettare, se tu non mandi la pubblicità a quell'ora lì, cacchio, sono guai, perché lì ci sono denunce e cose varie, dice tu sei stato un'ora che non mi hai mandato la mia pubblicità, per cui ci sono delle penali, devono stare un bel attenti quando manca la corrente, infatti. Se non ti canale 5 e coso, la RAI, a te ti manca la corrente, però devi dare esempio e segnale. Perché se manca la corrente devi entrare, funziona il gruppo automatico, come può essere l'ospedale, no? Se ti manca la corrente non puoi operare niente, non saranno. Sì, ma sono gli unici che ce l'hanno, solo RAI e Mediaset, se tu guardi la 7 e tutte le altre televisioni, nulla, nessuno mi dà, quando manca la corrente manca fra tutti, loro due invece c'hanno subito tu, la RAI addirittura non so se l'hanno fatto, quando manca la corrente nel video ti appare un puntino e ti dice per segnalarli a loro che è mancata la corrente nel ponte. La RAI come ponte magari un bel più alto, invece è più piccolo di quello di Canale 5, quello di Canale 5 è una posizione più bassa, però è 8 metri più alto, considerando che la RAI ha la torre idromitica, con la torre dell'acqua, e sopra c'è il ponte, il traliccio. Figurati, e loro devono ovviare a tante cose, se hanno visto sono più bassi sono alzati col traliccio giustamente. Però rispetto alla RAI, la RAI c'ha sempre la posizione migliore, se è nutica, che è micidiale, proprio al centro del monte, il punto più alto. Vabbè, ma Gigi, infatti è come non va, e infatti la RAI, perché la distribuivamo noi? Perché arriva un segnale debole qua, la minima cosa che c'è l'antenna, subito entriamo noi. Sì, sì, quello è vero, infatti la RAI era 1, ti sto dicendo c'ha 10 watt, quelli lavorano con 1000 watt, la RAI c'ha 10 watt, però c'hanno delle antenne allucinanti all'alta resa, anche Mediaset non scherza, però all'epoca quelle che aveva la RAI non ce l'aveva nessuno, non esistevano, cioè sono delle TV che si potevano permettere di comprare quei tipi di sistemi di radiazione. Ormai il canale 5 c'era anche lì, soldi, ma 30 anni fa nessuno si risognava di queste antenne. Tu allora meglio aspetti di là ed è pari o forse più potente della RAI, anzi più potente della RAI, la RAI è una cagata a confronto a Mediaset. Sì, sì, no, la Mediaset adesso quando ha acquistato questa elettronica industriale, no scusa, elettronica professionale, siamo non industriale, non conta nulla, era una ditta che costruiva apparecchiature, se le fa costruire apposta come fa la RAI, che ha il centro ricerche, per cui loro sono sempre in continuo aggiornamenti, al contrario di tutti gli altri, che quelli comprano le apparecchiature, quelle che ci si prendono, mentre loro se le costruiscono su misura e fanno tutti gli esperimenti. Perché infatti hai visto con che risultati, giustamente, effettivamente. Credo. Quelli però giustamente Rai e Mediaset si spendono di più sulla ricerca e su tutto, capisci? E c'hanno un casino di persone che lavorano per loro. Ah, quello di Antenna 1, Cuni, non ci sono corsi, Gianni Cuni, quello lì lavorava alla Rai, era un tecnico della Rai, infatti Radio Zero a livello di suono, adesso vabbè, col fatto che ci sono apparecchiature più sofisticate, ma all'inizio quando è nata la radio privata qua a Sassari, il Radio Zero era numero uno come qualità di segnale, non dico di potenza, di qualità, perché c'era questo, c'era l'esperienza della RAI, di lì devi stare a certe regole, a certe normative, ci sono delle tolleranze molto ma molto superiori a quelle che ti può dare la normativa normale vigente, loro sono molto più resistivi a tutti i disturbi, le apparecchiature devono stare dentro dei parametri molto più resistivi di quello che ti dice Valencia. Beh, certo, non possono disturbarsi l'uno con l'altro, se no succede Mastello, sono restrittivi per quello, anche per non disturbarsi. Allora figurati, da Monte Oro riceve il segnale, da Monte Limana è in banda, che è una cosa assurda, cioè adesso non lo fa nessuno. Adesso vabbè, la RAI riceve il segnale da satellite, tutti i punti sono alimentati da satellite, ma fino a, ti posso dire, a 15 anni fa riceveva il segnale in banda, parlo delle FM, da Monte Limana dal 99.3 lo ritrasmetteva qua a Sassari, al contrario di tutte le altre TV che sono in corso, cioè di tutte le altre radio ricevevano il segnale a microonde. Figurati che a segnale va via, che qualità di segnale c'erano, arrivare dalle mare su quella arrivare in mare è assurdo. E ma loro servono i studi, diciamo così, per essere passive. Sono le antenne, non so se le conosci, le Caltrain, quelle tedesche, se le hai mai sentite nominare. Sì, ma altre antenne avevano anche le apparecchiature potenti, capisci? Le Caltrain, adesso magari forse le puoi trovare qualcuno che qualche ponte demolito, qualche TV se le acquista, ma prima erano delle cose che costavano 100 volte il costo di un'antenna normale, però c'erano delle rese allucinanti. Perché erano antenne dedicate a quella frequenza, giustamente hanno sofferto il modo di farle rendere, e quindi cazzettina, e loro di questo servono 100 volte tanto un'antenna normale, perché l'antenna normale non gli dava quella resa. Gatta, gatta. È la stessa cosa di quel filare che ho costruito io, è da non credere che faccia quello che fa, eppure lo fa. Appunto, l'esperimentazione è bella, quello quando te la costruisci tu ti vedi tutti gli eventuali difetti, cerchi di correggere, riesci a trovare il punto migliore, magari sicuramente molte volte riesci a trovare la resa superiore alle altre antenne che magari ti vendono, ti rimane in vaga un bellina e non so niente di particolare. Esatto. Io da quell'antenna che sei tu rossa, quella che invece è rosso, io se mi metto da lì faccio un'antenna multibanda verticale. Ma quella non è rotta, quella lì è nuova, mi non te la guardare così, la buttata in un angolo, quella me la sono conservata e comprata nuova. Gli altri dipoli, quegli altri quattro dipoli che avevo erano delle semidirettive a due avviamenti, quelle sono stato uno stupido cazzo, ce li ho buttati, che avevano tutto, bastava allungare soltanto regolati e tagliati sulla frequenza che ti interessava, perché c'erano già i PL, l'attacco per i PL, c'erano tutti gli accoppiatori, eccetera, eccetera. Non bastava allungarti l'alluminio, i tubi d'alluminio te li taravi sulla frequenza che volevi ed uscivi alla grande, quattro ne avevo di quelli, quattro direttive a due elementi. E vai, io mi facevo una direttiva a due elementi, mi facevo, e me l'allungavo alla frequenza che volevo io, ci dividevo in tissivo, due o tre elementi, pervasivo, no di B. E ti facevo vedere come scrivo io quell'antenna. Ecco, se riesco a trovarne qualcuno, adesso chiedo un po' a degli amici che loro che hanno dei contatti con TV e radio private, per vedere un pochettino cosa si riesce a fare. Perché tanto alluminio, una vega d'alluminio mi pare da 3 metri ce l'ho, 3-4 metri ce l'ho, il tubo d'alluminio, più o meno di quelle misure lì, che mi era rimasto, avevo fatto dei lavori. Se riesco a buscare vediamo un po' cosa si può fare. E un difolo rotativo fatto. Cazzo, non mi dico questo video se lo posso funzionare. C'era anche quello di via Savoia, di quello che sta dicendo Cini, sopra la direttiva, se no ti sei un difolo rotativo. In via Savoia. Sì, quello che stai prendendo, quello che stai dicendo, si decide enorme. Se stai vicino a casa sei da te. Ah sì, no, sto portando un negozio in via Savoia, no, lo sono a seguito. Se non si sa che c'è un difolo rotativo. No, l'ho visto di sfuggita, non me lo ricordo. Ma che ce ne trovano adesso di queste antenne in disuso, di queste antenne di radio private, siccome hanno chiuso un sacco di radio private, ce ne sono, bisogna trovare la persona, adesso devo chiedere un po' in giro, se riesco a trovare la persona, ce ne sono diverse di radio che hanno chiuso, dice vai, te la prendi e te la sposti. Cazzo. Ah, a questo punto, il radio, che fine ha fatto? Vabbè. La stazione radio Arvitu è morto e l'ha rilevato questo tipo Enzo, un ex DJ di radio Holiday, e adesso si chiama 90.7. Ah, quindi è quella la radio. La 90.7 radio, ha cambiato il nome, però la musica è sempre la stessa, è un po' più commerciale, è diventata come la stazione radio, c'era un target diciamo di persone diciamo un po' più grandicelle, ascoltavano un certo genere di musica, lui sta cercando di renderla un po' più giovane come radio, ma non va male, lei ha migliorato, secondo me a livello di ascoltatori qualcosina di più ha guadagnato. E perché io a lui a Battista lo conoscevo personalmente, anche alla moglie, capisci? Abitavano sotto casa. E lui faceva, da dove andava a casa, tutte quelle cose, i palchi, la musica, l'amplificazione, gli dava lui, le trombe, lui si era specializzato da lì, poi piano piano è iniziato a entrare nel campo della radiofonia. Ma è iniziato molto, ma molto di dopo di quanto ho iniziato io, per dire, non era un grande professionista, piano piano si è allargato, ha preso qualche, ha un'apparecchiatura migliore, c'è ancora il ponte a Monteoro, nella campagna di questo, la campagna, nella casa di questo amico mio, ci sono tutte antenna 1, Mediaset, che cavolo c'è, altre 3 o 4 TV ci sono di lì. Ah, lui era radiochimico come mestiere, perché al di fuori della televisione lui lavorava anche mio compare da lui. Però chi l'ha iniziato alla radio privata è stato Luigi, un CB, uno dei Sassari, che è Tommy Paudini, che è un tecnico. Quello lì sì che ne sapeva. Infatti se la radio privata l'ha piazzata lì, è da Luigi, capito? Sì, lo conosco, con Luigi lo conosco, non dico bene, però ho capito chi è. Ci lavorava anche un altro Cristoforo, non so se te lo ricordi. Ma io conoscevo Luigi e Mattista, bene. Anche Luigi ha abitato dove avevo lavorato io praticamente. La Sky Radio ha iniziato a trasmettere in Gatturati sopra, dove c'aveva il laboratorio lui, te lo ricordi? Signore. Poi da lì ha messo il trasferimento verso Monteoro, e poi da Monteoro le radiamo, non le abbiamo utilizzate, ma lui c'aveva un trasmettitore da 2000 watt, una cifra, una potenza esagerata per Sassari. Sì, già lo so, poi chi controllava tutto era Luigi, non certo lui, no, perché chi ne sapeva il trasferimento era Luigi. Gaffa, gaffa. Aveva questo apparecchio 2000 watt, non l'avevo mai preso, lo trasferiva in vasia, perché ne usciva con 400 watt lui. E vabbè, lui si va a Sassari così, poi c'è il trasferimento giustamente. No, solo Sassari, lui solo Monteoro utilizzava, non aveva altri punti, 90.7 di lì e basta. Ah, solo il trasferimento a Monteoro aveva. La pallone, l'unico che c'aveva i punti fuori di Sassari era Mondo Radio e poi Coso, Radio Venere che c'era all'Anghero e Auxiri, c'aveva però Auxiri attaccato e c'è stato un periodo Coso. E Radio Zero a Monte Alvaro, però ha durato poco e ha spento. Radio Bene ancora c'è. Radio Bene capita se c'è 90 e 90.5 d'Alghero, trasmette. C'è un bel segnale, ottima qualità, grande professionalità. A livello di speaker attualmente è numero uno, parliamo di radio private. C'è Mondo Radio, diciamo, un po' mollato, Mondo Radio si è tenuto solo due frequenze, le altre si erano venute e si è fatto un po' di rilancio, aveva 9 punti ripetitori, Mondo Radio è stata la prima radio privata a trasmettere tutta la Sardegna. E la sentivo io sempre Mondo Radio. Adesso che trasmette tutta la Sardegna c'è Radio Lina, come si chiama? Radio Internazionale e Radio Sintoni, quasi tutta la Sardegna. Però come copertura Radio Lina e Radio Internazionale sono un po' più forti. E tu, la tua che radio era, vabbè? No, la mia era una radio niente di importante, però a livello di attrezzature non avevo niente da invidiare quasi a nessuno, perché quando ho iniziato a parlare a trasmettere in telefonia io, a Sassari ce l'aveva soltanto, sembra Radio Svelo e un'altra radio, due radio ce l'aveva, e Radio Venere, tre radio ce l'aveva, tutti gli altri erano in monofonia, per dirti, noi eravamo abbastanza all'avanguardia. La roba autocostruita all'inizio, poi qualcosa poi l'hai comprata, però è stata proprio una cosa divertente, diciamo. Adesso è inconcepibile fare una cosa del genere, ma quando abbiamo iniziato era micidiale, è iniziato con un trasmettitore della CTE da un watt, poi da lì ti si è allargato, è andata a finire i DB come trasmettitori, antenna, c'è una bella antenna io, un'antenna 4 direttive, semi direttive della DB, su 13 metri di palo, una bella antenna. E da dove trasmettevi tu praticamente? Sopra il posto di lavoro, c'avevo un buchettino di lì, un angolino, una micidiale, però ci siamo divertiti, dai. Ne ho fatto qualche anno, poi alla fine, diciamo, io il lavoro ce l'avevo e non era più remunerativo. L'unica cosa che ho fatto, l'errore, che ho mollato la frequenza, perché con la frequenza ti fai un po' guidina. Esatto, era buonissimo la frequenza all'inizio. Lo sai quanti milioni ti fa? Io ho amici Radio One, sotto le 70 milioni gli hanno dato la frequenza. Io ce l'ho ancora denunciata la frequenza mia, c'era quello di Radio Venere, me l'ha detto, riusciamo a farti recuperare qualche cosa, ho detto fai tutto tu, poi fammi sapere poi, non so se si sente, non credo si sia più interessato. Ma di fatto vicino a dove è la copertura mia c'è un'altra radio adesso. Giuro. Teoricamente tu gli dici, oh bello bello, guarda io ci ho registrato questa frequenza, se la vuoi te la compri, però non me ne frega niente, devi fare vie legali e cose del genere, che cazzo me ne fa. Infatti, tu sbagli tu giurai, via da te. Ma tu non eri la gente che si è arricchita con questo fatto delle frequenze, perché per dare un'autorizzazione, adesso a parte non te ne hanno più autorizzazioni per l'occupazione delle frequenze, non c'è possibilità. E adesso devi per forza acquistarti una radio privata, di un altro tipo come hanno fatto queste radio Latte e Miele, cosa c'è, Radio DJ, Radio, come cavolo si chiamano, tutte queste RTL 125, hanno acquistato frequenze di altre radio. E per cui le hanno pagato un saccaccio di soldi e chi ce le aveva si è fatto un bel. L'unica radio che non ho mai capito per quale motivo non ha venduto la frequenza è Radio Unile, tra l'altro di Radio Unile. E via. I 104 sono ancora, vabbè c'è 139, c'è una radio, però 104 sono liberi come frequenza, nel senso non c'è ancora niente. Non capisco per quale motivo non le abbiano venduta, ma sai quante richieste ci sono. E voi dicendo la buttiamo là, magari aspettando tempi migliori per guadagnarci il più possibile. Tutte le altre, Radio Sound, Radio Echo, Radio One, così sa che ho venduto. Non vanno me ne aumento, ce ne sono almeno 4-5 che hanno venduto le frequenze, vabbè Mondo Radio ne ha venduto parecchio, Radio Venere ha venduto una frequenza, poi che cavolo c'è? Ce ne sono almeno 7-8 di frequenze abbandonate, chi non, tu l'unica è Radio Ulide, non ho mai capito per quale motivo, perché lo conosco pure molto bene il padrone, l'ex padrone almeno. Prima se c'è una 103.9 che ci ha fatto fare. Vabbè, ma non per far spostare, perché lui c'è, loro c'avevano 104, e c'aveva anche 104.1 registrata come frequenza. Dicevo, me lo metto, state levatene a 103.8, però a 103.7 c'è un'altra radio, non da qua, da Sassari, da Lembara arriva, per cui loro magari per quello si sono spostati a 103.9. Ah, per quello. La legge ti permette 150 kHz di spostamento. Però 150 sulla carta bastano, ma in realtà ce ne vogliono almeno 200 di kHz per non disturbarti. Già con 200 ti disturbi, perché la che c'è su 100 e 700 la TV ti disturba con radiodimensione suono, ed è a 100 e 500. Infatti, mi sembra non tutti i 200 kHz. Minimo ce ne vogliono 300. No, il discorso è se utilizzi apparecchiature altamente professionali, ti bastano 200 kHz, però il problema è che tutti cercano di tenersi molto larghi, quando ti sintonizzi tu con una radio manuale, l'hai visto, c'hai un po' di spazio, dalla parte là, si allargano con la stereofonia, se ne vanno oltre i limiti di legge, per cui non va più bene. Ma se li cuffiano, escono fuori, guai. Tutti escono fuori. Diciamo, la RAI, l'unica che non esce, la RAI è un po' radiodimensione, però diciamo gli altri più o meno un pochettino escono fuori tutti. Ma se li controllano, non vedono che sono fuori. Lo fanno apposta per farsi sentire meglio, oltre a succede quando il segnale tende a indebolirsi, lo facciamo anche noi, perché la legge ti dice massimo 75 kHz per uscire fuori in telefonia, però tu inizi a allargarti anche a 100-110, prova con uno scanner, con un ricevitore, ti rendi conto quanto c'è fuori. Lo fanno per farsi sentire, perché quando inizia a indebolirsi il segnale, loro dicono mettendolo un pochettino largo così mi sentono ancora. È come se usi un preamplificato nel coso, nel CB della trasmissione, ma questo è un principio. Certo. Tu ti misuri la RAI e sei di 30 kHz. La RAI, infatti dici mamma mia quanto è stretta, però quella è regolare, cazzo. Gli altri sono che sono fuori. Tu vai e guardati le radio private, non parliamo dimensione suono con le radio di un certo livello che hanno apparecchiature sofisticate, ma le radioline e le radio libere come escono. Non parliamo delle TV, se tocchi le TV guai, ogni tanto ne esci fuori frequenza, non ne vedi mai di fuori frequenza di radio, cioè di TV su altre bande. Io non è che ne guardo molto TV e quindi non ho mai visto, non ho fatto prove, diciamo. No, io adesso magari di meno, ma tutti i controlli, ero grande appassionato di controlli di queste cose qua, di TV e di radio, ti sapevo dire vita e miracoli di tutti. Adesso magari non sono aggiornatissimo, ma andavo, ti sapevo dire che era il ponte, da dove usciva, con quanto usciva, eccetera, eccetera. Facevamo i controlli con misuratore di campo, eccetera, eccetera. Adesso non me ne ho fatto più nulla. E così ogni tanto con il ricevitore vedi un po' come sta uscendo, se uno è più forte o meno forte. Ma mi sono calmato, no? Vabbè là, che fatto sta, io me ne va faccio in quel vestito, lì mi ci sentiamo domani, vabbè. Alle prossime, la cosa mi ricorda un po'. e grazie al cielo ancora non mi hanno chiamato. Ti saluto anche a te, buona notte anche a me su Codrum, e ti saluto a te e a tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao a tutti. Chi è che vuole entrare? Sì, Luca Flipper. Chi sei? Avanti, se vuoi entrare. Ti sento piccolino, chi sei? Ripeti. Franco. Non ti sento bene, ripeti, hai detto Franco per te. Come sei? Da dove stai modulando? Da dove stai modulando adesso? Avanti se vuoi entrare, sei bassino però. Sei basso di radio, da dove stai modulando? I punti. I punti? Non mi ascolti a me, io sono con un portatile, con l'antenna, con la mantova, però con un portatile. È buono, buono. Tu sei bassino di radio però, non puoi fare niente per migliorare. E cosa c'hai? Che antenna c'hai? No, no, non ti ho capito, ripeti. Ho detto Gran Plain. No, non ti sento bene, ti sento molto molto basso.